I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Signore e signori, l'universo è lieto di presentarvi il primo libro a fumetti de Il Capo, le prime 128 più 1 strisce quotidiane pubblicate sul sito Video Bigaz da Alex Raccuglia, con Il Capo. Muovetevi incompetenti! La fidanzatata Miki Contro. Ma quanto sei scemo! Il cane Palf. Uff, uff! Il micio Pomone. Meu! E naturalmente, i Minion. Capo, abbiamo un problema! Abbiamo trovato un altro bug. Vi farà ridere. Vi farà piangere. E vi terrà svegli la notte. Il Capo, le prime 128 più 1 strisce. Disponibile su iBook Store per iPad e Mac. Scopri di più su alexraculia.net/ilcapo. What the fuck? Italian Podcast Network presenta Fatality. Dietrologia videoludica. Il lato B dell'industria del videogioco. Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, bentornati ancora una volta a questi episodi bisettimanali della nostra fantastica e meravigliosa trasmissione. Oggi tanta ciccia e soprattutto tanta gente e anche un ospite. Però prima di presentare l'ospite, che di solito viene presentato per primo, ma noi di solito gli ospiti li trattiamo male, quindi lo presentiamo per ultimo, c'è Beppe Saso. Buon salve a tutti. Allegria Peppe, però, allegria. Bomba d'acqua. Accanto a me invece c'è il solito Marco Gualdi. Tanti auguri. Sì, sì, è vero, è quasi Natale. Dopo, alla fine salutiamo che è Natale. Durante questi giorni qui, oltre a questo episodio, uscirà anche lo speciale di Natale. Quindi tanti podcast da tutti ingolfati. Non ci siamo accavati neanche noi. Abbiamo fatto un po' di casino col palinsesto, ma non ce ne frega niente e presentiamo. La puntata di Pasqua la facciamo fra un po', vero? Fra un po', sì. Penso forse domenica, no, direttamente. Esatto. Oppure quando finiamo di registrare questo. Sì, ma faccio tutto una volta. Ma noi siamo gente tipo Mediaset agli anni d'oro, quando non poteva fare la diretta, che registravano tutto insieme. Poi arrivava Costanzo, diceva: portate per tsunami. Mangiavano 200.000 persone. Però festeggiare. Ci abbiamo un ospite che è importante per due ragioni. Uno, perché è l'unico podcast non IPN che io ascolto, diciamo così. Ti è beccate questa. E due, perché è un, insomma, si stanno avviando le procedure per far entrare questo podcast, che, appunto, è che era l'unico podcast non IPN che ascolto. Lo prendi perché cioè, no, non posso sentire cose non IPN. Esatto, infatti io mentre lo sentivo mi disturbava, capito, che non era, allora ho detto, allora facciamo la richiesta per vedere se loro, che sono bravi e sono simpatici, vogliono entrare in IPN. E stiamo parlando di Logan di Cerebro Files, giusto? Ecco. Ciao a tutti. È arrivato Kojima prima del tempo. Ovviamente i suoni fantastici di quel gioco che nessuno conosce, ossia Metal Gear. Pensavo fosse la suoneria di un telefono. Però invece no. Vabbè, ma non ce l'hai, molti la usano come il rumore del codec, come suoneria del o anche per i messaggi. Beh, in realtà voglio dire, ci stava, era una suoneria, tutto sommato. Era il mio telefono, quindi sì. Esatto. Ce l'hai anche il suono del punto esclamativo? No. Questo è male. È veramente male. Veramente. Va bene. Comunque, prima di entrare nel vivo della trasmissione, vi ricordiamo i nostri riferimenti, che sono www.dietrologiavideoludica.it. Dietrologia Videoludica la trovate come pagina sia su Facebook che su Google Plus e ovviamente anche su iTunes. Abbonatevi al nostro fantastico podcast audio. Ovviamente dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra posta elettronica, che di solito non ci scrive scrivete, o perlomeno noi di solito non andiamo a vedere se ci avete scritto. No, assolutamente ci scrivono. Ah, tu ci vai. Ci scrivono, soltanto scritto che non abbiamo bisogno di allungare il pene, per cui non ci mandate le pomatine. Esatto, ho capito. Allora, Logan, vuoi fare qualche accenno intanto al tuo podcast, al di là del prossimo ingresso in IPN, e insomma anche per il quale ovviamente faremo poi un comunicato congiunto, insomma cercheremo poi di far capire in che modo il podcast sta per entrare nel nostro fantastico e amorevole network. Sì, dunque intanto vabbè un qualche accenno sulla nascita di questa iniziativa, che è semplicemente dovuta al fatto che avevo voglia di dire la mia su quelle che erano le mie passioni, appunto. Che non te l'ha chiesto nessuno di farlo, però tu lo volevi fare, diciamo. Però lo volevo fare, sì. E quindi fregandomene altamente ho deciso, va bene, dai, metto su un blog e mi faccio anch'io un podcast, perché comunque io faccio un lavoro che fortunatamente mi permette di, in poche parole, io guido dalla mattina alla sera, quindi posso ascoltarmi un po' quello che voglio, quindi mi sono rimpilzato di podcast in questi anni e allora ho detto, ma perché non farne uno? E quindi ho chiamato a raccolta due amici che, a proposito, saluto Ivan e Enrico, che sono i miei colleghi, che salutiamo anche noi chiaramente. E quindi è nata questa cosa, che ha avuto un inizio un po' travagliato, nel senso che era nata come Cerebro è nato innanzitutto come un contenitore di notizie, e quindi anche un podcast che trattasse solo di cinefumetti, quindi film tratti dai fumetti e le varie serie TV. Poi questa cosa, diciamo, che si è ingrandita, siamo arrivati anche ai videogiochi, e come chi ci ascolta ultimamente, diciamo che questa parte ha avuto ha cominciato a preponderare sull'altra, quindi siamo un mix un po' strano ultimamente. Comunque un successo inaspettato, e abbiamo avuto Luigi Marrone, che voi conoscete bene, che fortunatamente ci ha dato il suo appoggio e la sua partecipazione. Peppe è venuto a trovarci, e poi chi vivrà vedrà, giustamente. E poi chi vivrà vedrà. C'è anche Marco, esatto, Gualdi, che può venire una volta, se vuoi. Ma potete venire tutti, le porte sono aperte. Tutti. Vabbè, tutti insieme però veniamo noi. Contemporaneamente, esatto. Bravissimo. Lo portiamo anche da mangiare, quindi. Va benissimo. Allora, ragazzi, questa abbiamo detto è una puntata abbastanza ricca, e quindi ovviamente entriamo nel vivo e partiamo con la prima rubrica, ascoltandoci. Come primo inserto ci ascoltiamo ovviamente Stefano Big Joe, che ci parla di un gioco sparatutto dove si ammazzano i cinghiali, che è Grido Lontano o Pianto Lontano. Che sarebbe il quarto Far Cry, che sarebbe come accesso anticipato. E poi successivamente forse al primo avvio, magari. Sì, scusate, come primo avvio, beh, sapete. Ma che lui gioca la beta. Ma sì, esatto. Gioca le beta. E subito dopo, ovviamente, sempre per primo avvio, sentiremo anche Giuseppe, che è qui con noi, che ci parlerà, insomma, di un gioco che ha a che fare con l'Inquisizione dei Draghi. Insomma, roba che, insomma, può succedere un po' di tutto. E vedremo, insomma, anche queste sue prime impressioni su un gioco tanto, tanto, tanto atteso. Quindi andiamo con la prima rubrica. Primo avvio. Amici del Proibito, buonasera, buongiorno e buonanotte. Sono sempre Stefano e oggi vi parlo del mio primo avvio. Il mio primo avvio è patatatan, Far Cry 4. Come avrete immaginato, ho preso il gioco a poca distanza dalla sua uscita, essendo un buon appassionato di Far Cry, che è un giochino divertente senza troppe pretese o velleità artistiche incredibili, ma è comunque un prodotto, secondo me, abbastanza interessante. In cosa differisce questo Far Cry 4 rispetto al 3? Decisamente poco. La storia è diversa, la storia cambia, tu sei all'inizio del gioco, tu ti ritrovi in un definiamolo pullman bus, autobus, e in una regione non ben precisata della zona del Tibet, del Nepal e così via, Perché alla morte di tua madre, dietro sua richiesta, dovresti spargere le sue ceneri lì in quel territorio. Sosta che vieni rapito da quello che è il nuovo dittatore del luogo e ti ritrovi invischiato in tutta una serie di situazioni che ti porteranno al tentativo di liberare quelle zone da questo dittatore. Il solito nemico pazzo principale, forse un po' meno carismatico o interessante di quello che era Vass nel terzo capitolo della serie di Far Cry. Il gioco più o meno è sempre un more of the same, quindi aspettatevi circa le stesse cose come tipologie di armi e così via, quindi classiche pistole, classici mitragliatori, mitragliatrici, pesanti, leggere, fucili d'assalto, lanciafiamme, granate. Hanno messo C4 e alcune simpatiche bombe e mine per far saltellare le macchine. In realtà quindi appunto hanno solo fatto delle aggiunte, hanno aggiunto qualche mezzo in più, adesso si può utilizzare l'elicottero, ad esempio un piccolo elicottero monoposto per spostarsi più agilmente da un punto all'altro, cosa molto divertente e soprattutto comoda. Hanno aggiunto le arene dove è possibile svolgere diverse sfide sia in cooperativa con altri giocatori in multiplayer che in single player, oppure utilizzare o creare delle sfide personalizzate, scelte dalla community o anche scelte da te stesso ovviamente. Hanno inserito nuovi eventi che più o meno, insomma, si basano tutti su quelli che sono già gli eventi che sono possibili all'interno del gioco, quindi abbiamo delle gare utilizzando vari mezzi, abbiamo delle consegne da effettuare, abbiamo tante tipologie di sottomissioni e una storia principale che in linea di massima non è esageratamente diversificata nei suoi vari aspetti, quindi si sceglie quali missioni seguire se da un esponente di questa Golden Path, che sarebbero li definiscono dei terroristi, ma sarebbero i ribelli allo strapotere del dittatore principale. E cosa c'è di interessante in questo gioco? Beh, se vi è piaciuto il terzo, vi piacerà anche il quarto, quello è poco ma sicuro, è un 3.5 lo definirei. Al solito è appunto enorme varietà di armi, di mezzi e anche le ambientazioni sono ben diversificate, si passa da una, non una giungla ma delle foreste abbastanza ben popolate, sia di animali di diverso tipo, sempre predatori, prede e così via che sono cacciabili e la cui pelle è utilizzabile per dei potenziamenti, alle montagne innevate dell'Himalaya o Himalaya come dir si voglia, ad altre ambientazioni più rocciose, ovviamente mancano quelle desertiche per ovvi motivi, e anche quelle marine, si trova solo qualche lago in giro all'interno del quale si possono fare dei simpatici incontri con dei ancora più simpatici pescioni. Cos'altro c'è da dire di questo gioco? Abbiamo sicuramente delle parti interessanti per quanto riguarda la caratterizzazione di alcuni personaggi, ma tolti quelli cattivi che sono molto particolari e molto cattivi, i personaggi principali secondo me soffrono un po' di una mancanza di carisma e di carattere da questo punto di vista. La cosa che non mi è piaciuta è che mentre nel terzo capitolo tu iniziavi che praticamente senza nessuna competenza e intraprendevi un percorso che era quasi spirituale, oltre che classico percorso da videogioco, sono più debole, divento più forte, la cosa veniva spiegata, la tua maggiore abilità nell'utilizzo delle armi, col fatto che diventassi più bravo nell'utilizzarle a furia di utilizzarle, continuando a utilizzarle. In questo caso tu inizi che praticamente puoi già tirare le granate quasi, e inizi, come dire, come se iniziassi a metà di quello che era il precedente gioco, e quindi sei già piuttosto forte, diciamo, non hai quel senso di progressione così ben definito come nell'altro gioco, e i potenziamenti si sbloccano sia facendo esperienza, quindi uccidendo i nemici in maniera stealth oppure con i colpi alla testa, oppure si possono sbloccare effettuando delle missioni secondarie o anche delle missioni principali, che quindi ti portano a aumentare un po' la longevità del gioco, che sarebbe completabile in realtà in una decina di ore circa, andando dritti, seguendo solo la storia principale, giocando anche bene, mettiamola così. Quindi cosa dire? Per il primo accesso, il primo avvio è una cosa, insomma, è un bel gioco che secondo me non è da acquistare a prezzo pieno, ma che è da giocare se siete appassionati di Far Cry, di quei giochi un po' sandbox ma non troppo, quindi meno di Just Cause, ma sicuramente meno sandbox di Just Cause, ma insomma meno indirizzati rispetto a un altro tipo di FPS, un Call of Duty o un Medal of Honor et similia. Quindi ve lo consiglio, ma ve lo sconsiglio. Ve lo consiglio, ma non pagatelo esageratamente. Ne vale la pena, ma sino a un certo punto, mettiamola così. Detto ciò, vi saluto e alla prossima. Ciao ciao. Grazie Stefano e grazie soprattutto di questo tuo intervento. Mi è venuta voglia di comprarne due copie. Però diciamo che Stefano è il diciamo, per giocare a Far Cry 8. Esatto, costa. Esatto. Che esce fra sei mesi. Cioè non vorrei che Far Cry cominciasse a diventare come Assassin's Creed. Diciamo così. Già, dici già ci sta. Non so, sentiamo a ruota un po' tutti quanti. Peppe, c'è un po' questo rischio? Ma sì, considerando che poi stiamo parlando sempre di Ubisoft, no? Che quindi è abituata a trasformare i suoi giochi di successo in franchise, no? Diciamo che a Ubisoft ci piacciono i soldi, Logan. Sì, credo che comunque i primi segni evidenti di questa cosa si cominciano già a vedere, perché da quello che si è visto e da quello che comunque si sa, Far Cry 4 non è che stravolge le meccaniche del precedente, si limita ad aggiungere qualcosina, ad aggiornarlo un po' per la next gen, ma neanche troppo. Quindi non lo so, c'è il rischio che Assassin's Creed abbia fatto scuola eccessivamente. Esatto, infatti c'è un po' questa impressione, anche se poi come abbiamo detto insomma nelle parti innovative, poi penso per un fan come Stefano in realtà il gioco, a meno che non è proprio una cagata, penso che piaccia comunque, perché lui comunque come dice giustamente si è divertito. Ma stanno i cinghiali? Non lo so, perché stanno in Tibet sta botta. E che ne sai? Cioè, Tibet, ci sarà un qualche facoce cinghiale, lo mangeranno a partella al cinghiale, dici. Qualche facoce di sicuro non le mangia Marco. Però puoi mangiare pane e proboscide di elefante, giusto, bello schifo. Allora Peppe, andiamo invece con i draghi e con l'inquisizione. Dragon Age Inquisition. Esatto. No, è già c'è stato Dragon Age Inquisition. Che è bella annunciare un gioco. Questa è la trasmissione che, come hanno detto, tanti l'ascoltano perché è gradevole. Esatto. Ci piace essere gradevole. Cioè, non fa un cazzo di quello che diciamo. E, quindi cerchiamo di portarla un po' sui ranghi. E chi solo Giuseppe può, perché insomma è la persona più seria fra di noi. E parlaci di sto primo avvio, cioè queste prime sensazioni. Sì, considerando che comunque per un gioco di ruolo, poi specie per uno di quelli di BioWare, una decina d'ore comunque sono poche, insomma. Hai fatto il personaggio principale, hai cominciato il tutorial, cioè ti hanno spiegato come usare X e quadrato. Quello l'ho fatto, e infatti cominciamo anche da questo, più volte. Perché mi è piaciuto molto l'editor del personaggio, quello insomma che ti permette di modificare un po' il volto, che andrai a vedere in continuazione nelle varie un po' anche cassino. Senso, cioè nel senso che lo fai proprio pesantemente, cioè puoi fare anche un personaggio brutto. Puoi fare personaggi bruttissimi, come puoi fare anche cose che mi hanno lasciato, almeno per quello che ho visto dagli altri giocatori, perché io non ero in grado di riprodurli, hanno fatto tipo, che so, Targaryen, Daenerys, proprio uguale, spiccicata, che è la regina dei draghi di Game of Thrones, per darti un'idea. E se andate in rete vedete che ci sono effettivamente personaggi realizzati veramente bene, perché comunque è un editor che ti permette di modificare molto cose, di qualche che so. Peccato che non abbiano rilasciato come nel primo un editor separato per farti prima del gioco il tuo personaggio, perché quello era anche parte del gioco, farsi il personaggio, prepararselo. Lo fai quando giochi. In realtà nel caso di ci sarebbe da aprire pure la parentesi che nel caso di Dragon Age Inquisition, infatti ne avevo pure parlato sul sito, c'era tutta quella problematica a monte. dei salvataggi e delle scelte che tu, insomma, hai, che chi è che ha giocato ai capitoli precedenti, insomma, ha compiuto, no? Che si voleva portare avanti. E però mi hanno detto che i salvataggi del 2, che sono poi dirette conseguenze del primo, si possono importare anche senza il gioco installato, il 2. No, non lo... No. Allora, premettendo sempre che io sto giocando su una console di nuova generazione, su PlayStation 4. No, mi hanno detto uno che... mi ha detto, adesso non mi ricordo chi, che ci sta giocando su PC. No, no, si possono importare direttamente con Keep, anche per, direttamente... Ma il Keep, no, però... il Keep, il sì, che sarebbe sto sito dove tu, creato da, da BioWare, dove tu, loggandoti con l'account di Origin, puoi, insomma, visualizzare tutte le scelte a modi murales, come era un tempo, se vi ricordate, la Tapestry of Ages di Ultima. Ti permette di, appunto, di vedere tutte le scelte che hai compiute importando i dati, non i salvataggi, le informazioni che, insomma, erano conservate su, sull'account di Origins dei tuoi personaggi, se tu ovviamente quando giocavi sia ad Origins Awakening o a Dragon Age 2 avevi abilitato l'opzione nelle preferenze di mandare i tuoi dati ai server di BioWare. E quindi da là ti puoi prendere queste informazioni che ti fungono da base, però poi nulla ti vieta in ogni caso di modificartele in qualunque momento nel sito prima di procedere all'inizio del gioco, della partita di Inquisition. Sì, esatto. Ma ritornando un attimo sull'editor, l'editor è abbastanza profondo perché ti ho detto puoi permettere di cambiare proprio morfologicamente alcuni aspetti fisici proprio profondi, tipo la profondità degli zigomi, il mento, i rid esterno, l'interno, fargli pure se c'è tipo il naso un po' storto. È abbastanza completo. Ovviamente io sono sempre riuscito a far tirare fuori il peggio di me, quindi mostri, mostri su mostri, e ciò ovviamente ha influito anche sul fatto che ho ricominciato il gioco qualche 2-3 volte. Ricominciato facendo la missione tutorial, che già ti permette di vedere molte sequenze cinematiche, quindi da là vedevi se sto personaggio ti piaceva o meno, anche perché ricordiamo, se non sei affatto convinto è meglio che in questa fase cominci, cioè ritorni indietro, butti tutto quello che hai fatto, piuttosto che portarti, insomma, un personaggio che non ti piace, soprattutto andarti poi a rifare tante cose, perché questo gioco è proprio strapieno, eh. Immaginatevi un open world, non è, anzi neanche open world è una parola troppo grossa, perché è più un gioco suddiviso ad aree, con diciamo un hub principale che almeno all'inizio è un determinato villaggio che si incontrava già anche in Dragon Age Origins, il villaggio di Even, quello che andavi a trovare per scoprire l'urna delle sacre ceneri, non so se ve lo ricordate. Sì, sì. Perfetto. Con padre genitivi. Esatto, con fratello genitivi, esatto. Che là, diciamo, ti funge da base delle operazioni, che comunque è, diciamo, una via di mezzo tra la Normandy in pratica di Mass Effect e l'accampamento di Origins, anche se rispetto all'accampamento di Origins è molto ma molto più grande, una vera e propria area di gioco. E questa area, assieme a tutte le altre che tu puoi accedere da una mappa, in pratica ti permettono di esplorare sullo stile di Skyrim queste varie macro aree, perché proprio di macro aree parliamo, perché sono enormi, sono piene zeppe di cose che tu vai via scoprendo, perché ovviamente all'inizio, quando capiti per la prima volta in un'area, com'era anche un po' con le minimappe di Origins, se vi ricordate, non vedevi, diciamo, tutta l'area, ma dovevi andarla via visitando, e lui ti illuminava, ti evidenziava poi tutte le cose, sia i punti interesse sia tutto quello che vedevi effettivamente nei dintorni. Oltretutto, le cose che tu vai a incontrare, insomma, ti possono capitare anche in parte casualmente, un po' come, se vi ricordate, appunto, Skyrim, che ci sono ogni tanto dei mob che sono degli incontri casuali attualizzati, no? Che magari procedurali, io direi. Sì, esatto, in generale di maniera procedurale, perché se tu magari ricarichi non ti possono capitare. La procedurale funziona sempre. Esatto. E comunque sai che in quell'area, anche se magari poi ci ritorni dopo, non è che come era, se vi ricordate in Origins, che tu ammazzavi tutto e poi se ci ritornavi non incontravi più un cazzo. No, rimaneva sempre vuota. No, qua comunque in determinati punti comunque potresti incontrare sempre comunque quella, diciamo, pattuglia che avevi affrontato magari prima, no? Oltretutto anche lo stesso loot, lo stesso bottino è comunque un po' procedurale. Cioè ci sono alcune cose ovviamente fisse, però altre che vai via via depredando che non sono sempre le stesse. C'hai anche diversi punti di raccolta perché c'è un crafting veramente esteso, perché tu ti potevi, per crearti le armi devi prima trovare i progetti. Dai progetti i progetti possono avere diversi slot in cui associare i materiali, che a seconda del tipo di slot può dare, diciamo, un beneficio offensivo, difensivo, speciale, e a seconda poi dello stesso materiale che vai a mettere in quei slot cambia il bonus effettivo e cambia anche il colore, cioè alcuni colori delle texture dell'arma. Quindi diciamo c'è un livello di personalizzazione molto molto profondo. E questo è quello che rende un buon gioco del ruolo. Sì, sì, io devo dire che rispetto a un gioco del ruolo all'acqua di rose, insomma. Quando infatti Dragon Age 2, per dire. Sì, no, non è assolutamente è più vicino a questo punto a Dragon Age Origins come profondità, anche se in realtà lo è ancora molto di più. Io lo abbinerei più, perché mi ricordo che nelle interviste ai tempi lo avevano detto i designer, che si erano ispirati a Skyrim. È esattamente vero, perché è un po' come girare nelle varie aree di Skyrim. Allora, perché però la domanda però che te faccio è perché poi arriviamo un attimo al succo, perché purtroppo poi sai che queste rubriche hanno un tempo un po' limitato. Sì. La meccanica del combattimento, arriviamo al combattimento. La mazzata, esatto. Com'è la mazzata? Perché lì era quello che ha fatto Dragon Age Origins. Cioè, aveva fatto diventare Dragon Age Origins quello che tutti ci aspettavamo, cioè un gioco che si ispirava a un certo modo di approcciarsi al gioco di ruolo, no? Quindi anche dal punto di vista tecnico del combattimento. In questo caso, diciamo che, come forse sei stato tu che hai detto che ricorda più il passaggio tra Mass Effect 1 e Mass Effect 2. Sì, allora, in generale con questo capitolo loro appunto hanno voluto comunque sdoganare un po' il gioco di ruolo di massa, come aveva fatto già BioWare per la sua saga fantascientifica, ora l'ha fatto per quello fantasy. Perché se vi ricordate, rispetto a Dragon Age Origins, sia nella creazione del personaggio c'erano tipo, era suddiviso, vi ricordate, proprio potevi mettere i punti nelle caratteristiche, potevi sceglierti le abilità che erano diverse dai talenti che erano poi quelle che usavi proprio in battaglia. Qua c'è tutta una cosa unificata e come possibilità effettivamente anche nei vari talent skill, le skill all'interno dei talenti sono poche, però sono abbastanza funzionali. Infatti il combattimento, che tu lo puoi affrontare, ricordiamo, sempre come un action, ma nulla ti vieta in qualunque momento, almeno col tasto, visto che lo gioco su PlayStation, col tasto quello centrale touch, metti in pausa, quindi c'è sempre la pausa tattica che ti permette di appunto gestirti proprio ogni migrazione dei vari personaggi, passando dall'uno all'altro, indicando. Non sono tantissime le azioni che puoi fare, secondo me sono anche di meno rispetto a Origins, però comunque puoi sempre indicare vai alla zona in quel punto, fermati in questo punto e poi continua a usare questa abilità, quest'altra, eccetera. Soprattutto quando tu metti in pausa, questa volta non devi tipo che so fare le azioni e poi uscire dalla pausa, se vi ricordate, poi rimetterlo di nuovo per l'azione successiva. No, qua hai un tasto che diciamo fa avvia diciamo il play, come se fosse il play che però va avanti come in un film fin tanto che tu tieni premuto quel tasto, a meno che non esci dalla pausa, altrimenti smazza spazza. Esatto, però smazza spazza comunque semplificato. Smazza spazza no, perché comunque è semplificato a livello casual, però ha delle meccaniche che insomma se tu anche a livello normale ti metti a pigiare i tasti, non è detto che riesci sempre a uscire vivo, perché comunque conta molto anche sapere quando usare le abilità. Cioè non lo giochi in maniera passiva come un MMORPG, per intenderci, è proprio un action tipo diciamo molto alla lontana come poteva essere un Dragon's Dogma, no? Che devi sapere comunque quando usare le, per esempio il guerriero c'ha ora delle abilità di parata che conviene utilizzare proprio nel momento in cui tu vedi che il nemico sta facendo partire l'animazione dell'attacco, perché sai che se tu attivi quello allora parerà il colpo e glielo puoi, potrai pure ricambiare con un danno maggiorato. Oppure se sai che devi, perché un'altra cosa importante rispetto ai due capitoli precedenti è che non c'è più la guarigione durante la battaglia, o perlomeno è solo affidata alle pozioni. Ora in questo capitolo si gioca molto più sul concetto di guardia e di barriera, ossia la guardia è praticamente una specie di armatura aggiuntiva che tu puoi attivare in qualunque momento con i guerrieri, che solitamente attraverso le abilità diciamo di taunt, cioè di provocazione dei nemici, no? Cioè fa incazzare i nemici costringendoli ad attaccare te, però nel frattempo tu ti aumenti questa barra e fin tanto che loro non ti tolgono tutta questa barra aggiuntiva di armatura non intacca quella della salute. Analogamente i maghi possono utilizzare invece, possono lanciare sia su di loro che sul gruppo anche la barriera, che sarebbe un'altra forma di energia aggiuntiva, quindi un po' se vi ricordate come in Mass Effect 2 che c'erano diverse barre d'energia oltre quella diciamo della salute, c'avevi la corazza, quella dei poteri psionici, esatto. Ma quindi praticamente il mago comincia, cioè assume sempre di più una visione d'attacco, quindi esatto, nel senso invece il mago in questa maniera non, cioè specialmente se lo giochi poi anche come personaggio principale, non sei costretto a rimanere insomma un curatore passivo, no, che deve semplicemente mettersi a però elimina completamente magia di cura, non è, non, cioè, in realtà un'altra magia è rimasta, quella della di resurrezione c'è ancora. Ah, vabbè. E comunque tu puoi in ogni caso fare resuscitare anche i tuoi compagni, anche se non sei un mago, con la cosa alla Gears of War, no? Vai vicino al loro cadavere, premi A per qualche secondo nella speranza che che nessuno ti interrompe. No, beh, non c'era in Dragon Age. In Dragon Age, quando c'era un combattimento e uno moriva, non c'era più possibilità di, se vi ricordate in Origins, di farlo resuscitare. Cioè, ok, finché ragazzi, voi avete qualche domanda per Peppe? Allora, sì. Logan. Allora, io premetto che ho giocato parecchio Dragon Age Origins, e invece quando poi ho preso in mano il 2 l'ho mollato dopo poco perché non mi è piaciuto, e la cosa che subito ho odiato è il fatto che il protagonista, quindi il personaggio da noi usato, avesse già un contesto e una storia di per sé. Qui non è così. No, assolutamente. Qui hai delle, a seconda, cioè poi è tornata la possibilità di scegliere tra più razze, tra le tre che c'erano già in Origins, mago, elfo e umano, più la quarta che è il Kunari, la mitica razza di vichinghi cornuti. Però a differenza di Origins, dove appunto la parola stessa diceva per manco anche... Io manco te lo dico, Giocono De Marco. Esatto, Osboromir di Stefano. A seconda, diciamo, se vi ricordate in Origins, anche della stessa razza potevi avere più origini, potevi essere, che so, il nano popolano, il nano... O quello nobile, sì, esatto. Sì, certo. L'elfo di città e l'elfo d'Alish e così via. Qua... Sì, però bene o male la storia te la facevi tu durante il gioco, sì, invece qua con il 2 allora, qua, beh, il 2 aveva un problema che... senza scendere troppo, era il fatto che era l'espansione che oltre a questo è che vabbè aveva i dungeon riciclati, che era sempre lo stesso, che era figlio di uno sviluppo affrettato e che soprattutto aveva un contesto di una città, perché si svolgeva nell'arco di 10 anni più o meno. Qua invece è più come Origins, che c'è una missione e si risolve in un tempo molto ristretto, no? Sì, diciamo che Dragon Age 2 voleva essere proprio più strettamente narrativo, sì, secondo me. Però no? Aspetta, per tornare alla domanda di Logan. Qua a seconda della razza che scegli cambia un bonus, diciamo, associato proprio alle caratteristiche del personaggio, e però ogni razza ha una sola storia dietro, cioè l'umano sarà sempre comunque un nobile mandato a questo concilio, insomma, dove va tutta puttana all'inizio proprio del gioco. L'elfo era tipo una spia che doveva comunque andare a vedere cosa succedeva in questo concilio. Il nano, uno di quelli del carta, che sono queste specie di criminalità nanica, che doveva vedere pure sta cosa. Il Kunari, che poi viene detto anche male, perché in realtà non è proprio il Cunari, ma sono quelli, sono diciamo i Cunari che hanno abbandonato il credo del Cun, quindi sarebbero i Talva Shock, se mi ricordo bene. Comunque hai questa origine che ovviamente cambia anche la come i personaggi si interagiscono con te, specie anche molti PNG che insomma secondari, che tipo se appunto sei un elfo ti trattano di merda, se sei un Cunari hanno paura di te, se sei invece un nobile insomma ti fanno tutte le moine, però in realtà scippano. Però in realtà comunque tu cominci, dopo che hai scelto la razza, sempre nello stesso punto, quindi comunque l'incipit è uguale, non è appunto come Origins che, se vi ricordate, l'incipit più che altro un background così tanto diverso. Esatto, è un quello di Origins era la peculiarità, proprio perché in effetti era Origins, nel senso che era sì, quello, esatto, quello che... Però poi diciamo torna ad essere come Origins, nel senso che poi contestualmente a tutto quello che poi vivi durante il gioco effettivamente qualche cosa cambia nei dialoghi. Okay. Nelle mappe, cioè i dungeon sono contestualizzati dentro la mappa, cioè anche la cosa più stupida, un castello che tu vedi che è diroccato, non è che tipo tu arrivi alla porta del castello, caricamento della mappa interna, no, è tutto all'interno di un'enorme mappa, quindi rispecchiano sia da dentro che da fuori le proporzioni architettoniche. Vabbè, ma d'altronde che c'ha ansia fa i gigabyte di memoria PlayStation 4, anche per un castello, per la casa, per la tua base, tu vedi che effettivamente il dentro è ci può stare, cioè è rispecchia quello che tu vedi da fuori, no? Poi ricorda questo. E poi come in Dark Souls c'è la possibilità, sei più libero proprio anche come action, perché tu puoi anche saltare volendo, anche se è un po' inutile diciamo l'animazione del salto, mi ricorda molto, se vi ricordate, quella di World of Warcraft, quando il personaggio saltava tutto rannicchiato, no? E poi diciamo serve poco per il gioco. Però vabbè, io ti faccio solo una domanda. Sì. Se tromba vestiti? Non sono ancora arrivato. Allora forse posso stare anche la rubrica successiva. Non ne ho proprio sentito parlare di questa cosa. Poi tra l'altro ci sono. Allora, sin dall'inizio anche gay. Sin dall'inizio comunque io nelle conversazioni, ecco che magari quest'ultima cosa, le conversazioni sono sempre il famoso anello di Mass Effect, per intenderci. Vabbè, quello funziona. Che prende le cose anche di Dragon Age. Sennò la gente si sbaglia. Sì, che prende le cose, vi ricordate di Dragon Age 2, che quando tipo facevi certe conversazioni vedevi diciamo all'interno dell'anello un simbolo diverso, no? Che tipo era la battuta più scherzosa, quella più rancorosa, cioè c'era un'iconcina che man mano che selezionavi una di queste frasi, che ti diceva che diciamo l'atteggiamento che tu, con cui tu recitavi quella frase, no? Okay. Cioè pure anche se non rispetto a Dragon Age 2 è meno macchiettistico, perché ti ricordi quasi tutti in Dragon Age 2 quasi tutti i dialoghi che facevi avevano sempre la risposta da buffone, sempre queste diciamo ce ne sono molte di più tra virgolette generiche, che ricordano di più le tre diciamo neutrale, buono o cattivo proprio di Mass Effect, per intenderci, che tu non arrivi a capire effettivamente se stai dicendo una cosa anche con un tono più scherzoso o meno, tranne appunto quando non viene evidenziato da quell'icona. E ritornando al discorso delle romance, sin dall'inizio comunque con alcuni personaggi, quando diciamo ci parli negli accappamenti eccetera e ci chiedi cose particolari, lo vedi che a un certo punto spunta questa icona, a me soprattutto ha preoccupato, perché io mi aspettavo che questa opzione mi spuntasse solo con, che so, ho fatto tutti i personaggi di sesso maschile, no? Mi spuntasse diciamo solo con quelli che comunque erano compatibili col mio sesso, no? Invece ci sta coso il comandante. Non dì niente, lo incontro all'inizio. Non ci svelare queste cose. Vabbè, no, comunque, ci sta un personaggio che comunque dicevo, è un bug, perché invece non è un bug, però lui comunque dice no, guarda, noi possiamo essere, cioè ho provato a dargli sta risposta amorosa per flirtare, dicendogli mi interessi tu, e lui mi ha detto subito no, mi dispiace, noi possiamo essere solo amici. Questo ti vuole far capire che non è come sul Dragon Age l'ultimo che Dogoglio, sul Mass Effect 3 che Dogoglio coglio, insomma è questo. Vabbè, Giuseppe, tanto poi di sto gioco fra 3 tre mesi sì. faremo lo specialone sicuramente, perché no, io lo, come, io lo come l'abbiamo fatto sì, già in passato lo faremo sì, di dico, nuovo, diciamo, sì. per chiudere, diciamo, per fare la chiosa, io lo consiglio, specie se vi è piaciuto il primo, e se vi piacciono gli open, cioè le ambientazioni molto estese come poteva essere appunto uno Skyrim o un Dark Souls. Perfetto, andiamo avanti. Osservatorio dietro ludico. Uno dei temi che ogni tanto ci è capitato di discutere durante le tre stagioni di dietrologia videoludica ed è proprio il tema che dà poi vita a questa puntata, perché abbiamo sempre sfiorato tante volte l'argomento, abbiamo detto poi ne parleremo, poi non abbiamo più parlato come tantissimi altri argomenti di dietrologia videoludica, ma siccome che noi siamo fighi, abbiamo il piano editoriale che ci portiamo appresso da anni, anche se su alcune parti del piano editoriale devi passare con la mano per levare la polvere, diciamo che eccoci qua a parlare di quelle che sono ovviamente le esclusive, che le esclusive temporali e non hanno caratterizzato in maniera particolare soprattutto la scorsa generazione, ma anche questa secondo me. Aspetta, poi ci arriviamo. In particolare, diciamo che la scorsa generazione, quindi quella dell'Xbox 360, della PlayStation 3, sono state fortemente caratterizzate dalle esclusive più o meno definitive, diciamo così, e ovviamente ci sono state anche tante riflessioni in merito a questo tipo di discorso, e poi abbiamo visto che tante che consideravamo esclusive definitive in realtà poi alla fine sono state sdoganate, quindi sono crollate chiese incrollabili quasi, insomma, tipo vedere un Mass Effect su PlayStation alla fine di prima su PC e poi PlayStation, però già su PC, nel senso, già su PC, no? Vabbè, però comunque non era più Mass Effect, visto che dobbiamo proprio nominarlo, era che non possiamo come, non nominarlo, era esatto, sì, lo sponsor era nato come gioco proprio di lancio, addirittura poi non uscì al lancio, proprio esclusiva Microsoft, poi si trasformò in esclusiva temporale, tant'è che infatti la versione PC, se vi ricordate, uscì 6 mesi dopo quella 360, allorché anche BioWare era stata lì per lì per essere acquistata da Electronic Arts. E ci ricordiamo, carissimi amici, che Mass Effect, quando Marco lo giocò su PC, quando lo finì, cioè ora puoi spegnere l'Xbox. Sì. No vabbè, ma non era cose l'unica, del genere, diciamo, se proprio vogliamo restare in tema 360, perché vi ricordate anche molto tempo più là, dopo Alan Wake pure, che doveva essere titolo di Remedy, uno dei giochi portanti per facciamo 360, un attimo facciamo questa cosa qua, guarda Peppe, partendo da te, poi sì. Logan, Marpo e Marco, sì. Quali sono state secondo voi quelle che vi sono piaciute di più e che hanno significato di più anche come strategia le esclusive della scorsa stagione, della scorsa generazione, da una parte e dall'altra? No, quelle che secondo voi vi sono piaciute di più e quelle che invece hanno significato di più, nel senso che hanno veramente portato magari qualcosa dal punto di vista strategico, economico e commerciale. Insomma, partiamo da Giuseppe. Allora, beh, a parte il già citato Mass Effect, per me, diciamo, che fu uno dei giochi che mi spinse a comprare la 360, soprattutto a preferirla sull'acquisto della PlayStation 3 ai tempi. Furono altri giochi di ruolo, perché se vi ricordate Microsoft nella scorsa generazione aveva comunque una strategia per lanciare la sua console anche all'infuori dell'America e dell'Europa, soprattutto anche in Giappone, e se vi ricordate agli inizi proprio dei primi anni di vita della 360 si era cominciato a ringraziare alcuni sviluppatori giapponesi, tra cui Mistwalker, tant'è che infatti se vi ricordate i primi due giochi di Mistwalker sono tuttora delle esclusive 360, ossia il bruttino per Blue Dragon e il fantastico Lost Odyssey, esatto. E quindi questo qua era rimasto comunque un'esclusiva interessante. Poi vabbè, una delle più forti sempre per 360, anche se non le ho giocate proprio tutti i capitoli, era Gears of War, anche se ricordiamo che lo stesso Gears of War, il primissimo capitolo se non sbaglio, fu portato anche per PC su Games for Windows. a distanza di tempo. Poi ovviamente Microsoft si tenne stretta Epic e continuò a portare tutti gli altri capitoli solo su 360. Poi altre esclusive interessanti, per me almeno, vabbè, perché ai tempi ero giovane e credevo a tutto quello che diceva il buon Molyneux, la serie Fable. Solo in seguito poi questa serie cominciò, se vi ricordate, a essere portata pure su PC con Fable 3 e poi Fable Anniversary. E anche su Mac addirittura. Anche Fable 1, Sì, in realtà il primissimo Fable era... Sì, però fu... diciamo fu un po' come l'esclusiva anche temporale fasulla di KOTOR, se vi ricordate, perché il primo KOTOR uscì prima per proprio su Xbox, la primissima, e poi se mesi dopo esatto su PC. Quindi insomma quelle sono le esclusive che almeno a me hanno interessato, di esclusive forti che tuttora permangono pure, come tipo la serie Forza per esempio, sì anche quelle, però insomma io non le ho giocate, per intenderci, quindi queste sono più o meno quelle che io ricordo almeno lato 360. Lato invece PS3, ovviamente la PS3 invece cominciò sin da subito ad avere comunque titoli forti rispetto alla controparte di Microsoft, quindi anche il primissimo gioco, diciamo, a sbarcare di un franchise noto a sbarcare su PS3, che era il terzo capitolo della serie God of War, se vi ricordate, che a quei tempi era proprio, aveva un comparto tecnico di prim'ordine. Oppure come altri titoli insomma interessanti, tutti i giochi di Cage, no? Gli ultimi due. O anche tutti i titoli della serie di Naughty Dog, no? Tutti gli Uncharted, quelli forse gli Uncharted quelli, ha fatto esatto. Da controbilancia. Quelli insomma. Ovviamente con quello che poi è sfociato con The Last of Us, no? Che io, quindi, come lo nominiamo, viene sempre il soffio al cuore. Insomma queste sono secondo me. Sicurano certe cose. Sì, sì, no, volevo dire una cosa, invece me ne uscita fuori un'altra, però va bene. E, Logan. Sì, beh, intanto condivido per quanto riguarda The Last of Us, perché credo che sia il culmine della definizione di esclusiva da parte di Sony. E premetto che non ho mai avuto console Microsoft. Perché? Perché semplicemente senza PS3 non avrei potuto giocare a Metal Gear Solid 4. Ah, ecco, effettivamente, scusa, quindi... hai fatto bene a ricordare insomma la saga di Metal Gear. Ci stavo rimanendo male, che non lo stavi dicendo. No, comunque... vabbè, ma che poi tra l'altro tu giustamente Metal Gear PS3, io per esempio avevo comunque scelto PS3 e l'avrei comunque scelta anche per una questione prettamente epidermica verso Xbox, però ciò nonostante io Xbox la comprai ugualmente proprio per giocare a Mass Effect, quindi questo significa che per in un determinato momento dove secondo me anche generazionalmente è stato importante un certo tipo di discorso, perché una volta esisteva la PlayStation, ok? Certo. Poi esistevano tante altre console, però alcune erano gli hanno fatto una bella guerra, altre no, alcune si sono estinte, alcune sono morte, poi è nata l'Xbox, però in realtà il mondo delle console era la PlayStation. 360 è stata forse l'unica console che veramente gli ha dato il filo da torcere a Sony, e non solo, anche, secondo me l'ha anche battuta generazionalmente, forse non definitivamente dal punto di vista numerico, ma comunque anche moralmente secondo me comunque gli ha dato una bella pezza. Vabbè. Non l'ha battuta forse dal lato delle esclusive, ma da quello dei multipiatta sicuramente, sì, nella generazione passata l'ha comunque commercialmente l'ha battuta, e commercialmente sì, perché ricordiamo che col fatto che costava di meno ai tempi della PlayStation 3 e uscì comunque qualche mese prima, certo. Diciamo che aveva guadagnato molto molto vantaggio, che poi però appunto come ha detto anche Logan bene si è persa poi negli ultimi anni, lo sprint, sì, esatto. PlayStation si è rifatta sotto, sì, sì. Beh, ma PlayStation ha chiuso no in bellezza. Beh, si è fatto il botto, sì, più, esatto. Ha chiuso veramente in una maniera incredibile. Però ecco, sì, in una generazione come quella dove comunque c'erano due console che se la giocavano veramente, e probabilmente Xbox per certi versi, per questioni anche tecniche di conversione nella programmazione del software e via dicendo, comunque probabilmente appunto se l'è veramente battuta, lì le esclusive hanno rischiato di avere veramente una grande importanza. E secondo me, ecco, Mass Effect o ad altre esclusive importanti come appunto Uncharted, oppure The Last of Us, ma quello ovviamente, come abbiamo detto, è venuto alla fine, hanno veramente significato la possibilità di scegliere una console piuttosto che un'altra, perché poi non tutti sono malati come noi che magari se ne comprano di più di una, insomma, nel senso di console. Quindi ecco, cioè, quello che volevo sapere è, secondo voi, ripartendo anche da Logan e poi sentendo anche Marpo, quali sono poi state, al di là di quelle che sono state le esclusive, ma quali hanno veramente significato, secondo voi, un risultato a favore di una piuttosto che a favore di un'altra? È una domanda a cui non so se riesco a rispondere. Beh, prova a dare una tua interpretazione, una tua visione. Beh, ma sai, io avendo praticamente vissuto solo dalla barricata Sony, e io in qualche modo mi ritrovavo quello che c'era, e indubbiamente mi sono fatto tutti gli Uncharted, mi sono fatto i vari The Last of Us, mi sono fatto i vari giochi di Cage e i giochi di Kojima, quindi, cioè uno no, sì, ma fai te che prima, quando hai detto che parlavi di Mistwalker, io sono talmente fissato che avevo capito Peace Walker, quindi no, per no, dire. No. anche se c'è da dire che, visto che siamo in tema di esclusiva, voi in realtà un po' se le rimangiate, perché quando ha fatto, se vi ricordate, uscire un paio d'anni fa la reedizione, la collection, esatto, con Metal Gear Solid 2, 3 e Peace Walker, in realtà quello uscì pure per 360, per la prima volta uscirono dei giochi di Metal Gear su 360. E su 360, sì, è vero, sì, hai ragione, perché il secondo capitolo era uscito anche su la prima Xbox, se sì, non sbaglio, sì, mentre il terzo era rimasto esclusiva Sony, poi Nintendo con la riedizione 3DS. E comunque non parliamo di Metal Gear, se no no vabbè, anche altri giochi, insomma, ce n'è per esempio uno che poi ne parleremo anche più avanti, che fu, non mi ricordo, uno dei titoli di lancio di PS3, che era il gioco di Ninja, il primo gioco di Ninja Theory, che era Evelyn's Sword, no? Sì, di quello infatti poi ne volevo parlare, proprio perché in effetti è uno dei, cioè entra perfettamente in un contesto come sta puntata qui. E poi nessuno ha nominato Killzone, tra l'altro, questo è un po' ma stare, magari c'è un motivo. Vabbè, perché era brutto. No, vabbè, però, cioè, tecnicamente, soprattutto il 2 era veramente. Sì, ma non c'è da questo, se non abbiamo detto ovviamente Killzone, devo dire che dal lato 360, come esclusive, c'è sempre stato Halo, scusa, che è quello che ha sdoganato la prima Xbox, perché la prima Xbox tutti se lo giocavano per Halo. Vediamo completamente. E poi, ovviamente, anche su 360, che prima ci fu, cos'è, Halo 3, e poi a fine generazione Halo 4, con tutti di mezzo i vari ODST e Reach, insomma, comunque ha continuato a imperversare e a vendere milioni di copie su copie per ciascun capitolo su 360, no? Certo. Ma perché non nominare Resistance, allora? Resistance, certo. Sì, allora anche quell'altro, Infamous. Infamous, sì, esatto. Comunque, Marpo, quali sono stati, secondo te, le esclusive che hanno segnato il colpo? Cioè, quelle che è proprio... Che era, cioè, nel senso, è chiaro che l'Xbox era diretta al mercato americano, perché esatto, loro volevano vincere anche da questo punto di vista, no? Nel senso che comunque geograficamente il mercato americano era anche più potente, quindi sarebbe vincere l'America, sarebbe stato vincere un po' la tutto sfida. Il mondo, tutto il mondo. Però lo si vede proprio nella filosofia anche dei giochi, perché se noi andiamo a vedere, in effetti, a parte Halo, che è comunque un'icona, vabbè, generale e universale, però anche Gears of War è pure un altro sparadutto, solo che in terza persona. Per esempio, Gears of War, esatto, è proprio quello sparatutto in terza persona, sparamuretto, come vogliamo chiamare, roba del genere, che però era abbastanza tamarro, sì, a differenza dall'altra parte. Su PlayStation abbiamo visto una ricerca un po' più attenta alle cose curate, ad esempio non è probabilmente la mega esclusiva, però Puppeteer, oppure sì, come si chiama, Little Big Planet, sì, ma anche The Last of Us, cioè, nel senso, comunque tutta una serie di giochi che avevano una rifinitura, una raffinatezza più un proprio senso artistico, proprio una, esatto, propria identità artistica, non so, e anche, diciamo, che erano tutti giochi che trasudavano proprio voglia di sperimentare, no, di provare cose nuove. Sì, mentre gli altri erano, esatto, facevano le stamarate. Perché poi, se tu ci pensi, no, anche Fable, cioè, vedi, è un gioco d'amaro, tutto sommato. Sì, sì, sì. Sì, aveva pure, se vi ricordate, i primi capitoli, quel design, insomma, pure appunto caricaturale dei cartoon americani, no? Sì, sì, io poi tra l'altro lo giocai su Mac, quindi figura. Marco, invece tu? Che bello. Quali sono state quelle proprio significative? Beh, allora, considerando che io la mia ultima PlayStation era 2, non ho mai comprato roba Microsoft per quanto riguarda console. Quindi non hai mai giocato Halo, manco tu? Ho giocato Halo su PC. Su PC. E mi sono pentito, perché tutto sommato potevo anche farne a meno. Ma perché Halo, secondo me, è un gioco dedicato al gioco in comunità. Cioè, nel senso, è un gioco... Sì, cioè, quando tu ti droghi, vai lì e per disintossicarti... Vai in comunità, esatto. No, era comunità, tant'è che infatti, come ho detto pure a inizio puntata, giustamente Logan, dov'è che era forte Microsoft? Sui servizi, no? E sull'architettura multiplayer, che è quello che diceva sempre anche, esatto, Luigi, no? Quando parlavamo della scorsa generazione. Mm-hmm. Però diciamo, dall'esterno, secondo me, diciamo che probabilmente quelli che sono più interessanti per me, perché io poi parlo di quello che mi ha interessato. Potrei dire che nessuno lo è stato, perché quello, per quanto mi riguarda, perché quelli che sono più interessanti per me sono usciti alla fine, quindi proprio quando erano gli tipo The Last of Us, sì, quindi alla fine lì i giochi erano praticamente già fatti. Però capisco che per chi ama un determinato tipo di gioco come Halo, che quello, chi lo ama lo compra a prescindere, perché cioè, io vedo della pazzia nella gente che compra Halo, giustamente una forma di psicosi, e quindi comunque se lo accattano, come dall'altra parte si prendono a botta sicuro. Botta sicura i giochi della Naughty Dog, non The Last of Us, perché quella, diciamo, è una cosa un po' per ora a parte, fuori dalla normale continuity, però tipo, sì, Uncharted, che quelli sono giochi che mio al day one, no? Capisco che sono delle cose molto molto interessanti, e che sicuramente hanno spinto, diciamo, un po' per l'uno e un po' per l'altro. Però diciamo, dall'esterno, di interessante, veramente interessante, posso dirvi The Last of Us, che è quello che mi è rimasto di più, Red Dead Redemption pure, che magari... Sì, ma non era però esclusivo, quello era un multipiattaforma, i giochi Rockstar lo sono sempre stati. Red Dead Redemption no. Sì, Red Dead Redemption per Xbox? No, era sia PS3 che 360. Sicuro? Sì, sì. Sì. Ah, quindi era esclusiva console allora. Ah, sì. Era solo il PC, okay, che erano sfigati. Ok, perfetto. Esatto. E comunque, in ogni caso, diciamo, altre cose che mi avrebbero spinto a comprarmi una console non ce ne sono. Tant'è che non me ne sono comprate. Fondamentalmente io sono un PCista, gioco su PC e sti gran cazzi, insomma. Anche God of War, che mi era piaciuto molto sui primi due capitoli, poi alla fine... Cioè, ma anche basta, insomma, dopo due... No, io God of War non ci ho mai giocato, devo dire la verità, però Gears of War mi ha divertito, per esempio, cioè, nel senso, ma un gioco Gears of War è divertito, ma i primi due, il terzo è troppo uguale a se stessa. Ma anche il primo di una ripetizione, cioè, sì, troppo... cioè, l'unica parte di Gears of War che ricorderò sempre era quando arrivano quelli che urlano nella notte, che fanno quei versi atroci. Che poi, tra l'altro, è preso da Pitch Black, diciamo la verità, insomma... Ma no, cose non tanto. Sì, più però da screamer, più da screamer. Non dimentichiamo che comunque Gears of War ha lanciato un genere, appunto, sì, quello degli sparamuretti. Cioè, Uncharted è un derivato di quello. Sì, sì, tanti giochi sono diventati un derivato di quello, e questo è vero. Sono esatto, questo, anzi, è male anche, però. No, non è vero. Io mi sono divertito, dai, non devo stronzare. Però mettendole a confronto, anche se vabbè, Gears of War è uscito anche per PC, quindi è esclusiva Microsoft, diciamo, non Xbox. Però comunque, mettendole a confronto proprio con... Sì, un errore, sono sbagliati, in realtà non volevano farlo uscire, che è partito un codice andata, vabbè, però mettendoli proprio a confronto, quindi Gears of War e Uncharted, si vede proprio l'approccio diverso da Microsoft a Sony rispetto a un gioco che in linea di massima è dello stesso genere, sì. Quindi Sony ha un approccio molto più narrativo, sì. Rispetto a Microsoft, che appunto, come dicevate, è molto più spara, distruggi, siamo, sì, anche perché americani. Gears of War, bisogna dirgli una cosa, che c'aveva la sua storia e tutto quanto, anche se poi alla fine era anche banalotta, però come narrazione vera nel gioco c'è poco e niente, no? È veramente un gioco d'amarro, esatto. Invece cosa ti piace di Uncharted? ti piace Drake, ti piacciono le avventure dei personaggi. Esatto, sì, esatto. Sì, sì, la storia, ma bello, già soltanto il fatto, forse succede anche in Gears of War, però in maniera diversa, però già il fatto che i personaggi quando camminano si raccontano il loro passato, no? Quindi raccontano a Ned, cioè non dicono cazzo ci stanno facendo il culo a strisce, roba, cioè raccontano i cazzi loro, quindi in realtà e tu entri, ti immedesimi praticamente anche nel background di questi personaggi, che aiuta ad empatizzare, e stessa cosa che succede nelle serie televisive. Poi tutto sommato, pur essendo un derivato, Uncharted anche dal punto di vista strettamente tecnico cinematografico sta veramente un pianeta sopra, secondo me. Poi questo, gli Xboxari che ce l'hanno a biastimare in linguaggi che noi non comprendiamo, però de fatto è così, cioè nel senso Sony ha la fortuna di avere dalla sua Naughty Dog, che è una software house con le palle, inutile negare. Però guarda che la fortuna, secondo me, te la cerchi, no? Nel senso, sì, certo o te certo la coltivi in qualche maniera, certo, perché, certo, assolutamente. Può sembrare una domanda stupida, poi in realtà non lo è, perché la domanda un po' più estesa è, al di là del discorso temporale o no, parliamo di esclusive temporali, ma così come di esclusive in generale, secondo voi a che cosa servono? Però non è una domanda scema, perché in realtà uno può dire a far vendere le console. Faccio una piccola cosa io, dico su questo, proprio perché mi è venuto per mettere, tu lo dicevi. Era finito, io già l'avevo già fatta 10 minuti fa. Era per finire la domanda, cioè nel senso, cioè servono per far vedere i muscoli o servono solo per vendere console? Per far vedere i soldi. Allora, innanzitutto, le esclusive temporali ovviamente servono di più. Anzi, questa dovrebbe essere un'altra domanda. Servono di più alle case che fanno i giochi o alle console? Perché alle console ovviamente serve avere, diciamo, quel prodotto che hanno soltanto loro e che potrebbe incentivare qualche vendita in più della propria console. Ma a chi fa il gioco? Secondo me fa più quanto conviene. Quanto conviene chiudere il mercato solo a quella console? Esatto. Cioè, se io vendo, metti un The Last of Us che ha venduto uno strafottio, perché comunque è un gioco che vale, se avesse avuto la possibilità di essere venduto su PC o Xbox, quanto di più avrebbero guadagnato? E questa è un'altra domanda. Adesso però dopo ci arriviamo. Discorso, quanto hanno da guadagnare? Cioè, cosa ci guadagnano le software house che fanno i giochi? Forse più in qualità, perché vedi la Naughty Dog che comunque con un hardware dedicato, che era quello della PlayStation, si è talmente concentrata su quel tipo di hardware da spremerlo e di avere dei prodotti, diciamo, fuori da quella che era la media. Come sì, però cioè, non voglio, perché dopo c'è proprio un punto specifico che in realtà parla proprio di questo, perché nel rispondere si estende anche a questo tipo di discorso. Perché una software house che ha il dovere di fare un'esclusiva ha fatto un contratto, ok, diventa un terze parti e diventa prodotto da, no? Quindi ovviamente quello che loro non incasseranno dalla vendita generale di un prodotto la devono incassare in qualche maniera, essere comunque indennizzate o supportate dalla casa madre che gli impone di fare quel discorso solo per loro. Ovviamente poi c'è una maxi ultra specializzazione su quel tipo di hardware e c'è un tipo di discorso, però questo è un discorso a parte. Io quello che dico, cioè nel senso, il scegliere di fare per chi produce la console, scegliere di chiedere la realizzazione di un'esclusiva vista solo consolaro, cioè il proprietario del signor Sony e il signor Xbox. Esatto, sì, perché Windows non paga per averci esclusiva, nel senso il PC non è un marchio, capisci? Cioè nel senso, sì, ok, ci giochi esclusivi per Windows, sì. Ok, però voglio dire, il PC è talmente vasto e vario e variegato anche come hardware che non può garantire, no? Penso un'esclusiva Mac. Ma ci saranno anche state, ci saranno anche state probabilmente nel passato esclusive Mac, io non lo so, infatti non potrei mai ricordare, ci sarà un motivo. Esatto. Vabbè, ma andiamo avanti. Andiamo. Però ecco, dico, cioè nel senso, secondo voi la richiesta viene fatta perché con quell'esclusiva veramente la hardware house, chiamiamola così, pensa di poter vendere di più, o lo fa semplicemente perché una esclusiva ben realizzata specifica per quell'hardware in realtà non è che una gigantesca tech demo con i controcoglioni che faccia vedere realmente quanto dico sono i muscoli mia. Del io ho giocato, poi passa anche gli altri. Ho giocato a qualcosa che in realtà non è un'esclusiva, lo era per Xbox 60, Xbox 64, Xbox One, Xbox 64 era bellissimo. pezzo che sarebbe un pezzo da storia. Che stavo parlando di Rise. Allora, Rise è un gioco che bravo, che quello è stato esempio, fatto bravo. Esclusivamente per far vedere quanto è cazzuta la Xbox, perché se no non è, cioè, è un gioco che francamente perché vuole una marea di roba a schermo, sì, assolutamente. A quel come punto, The Order sarà la stessa cosa, a quel punto riportato su PC, che senso ha, visto che PC comunque ha la console gli rompe il culo, perché fare un gioco per semplice per far vedere il 4K? E quindi infatti lì hanno fatto vedere, il nostro gioco Rise supporta il 4K, quindi far vedere comunque quanto è forte la console. Vabbè, quanto anche, è forte e anche un pochettino perché Crytek stava rischiando la bancarotta, quindi doveva monetizzare un pochettino, quindi sai, che, certo, c'è, sai che c'è vendiamo, ci vendiamo, esatto. Perché comunque qualche cosa, sì, però a Crytek gli interessa vendere i giochi o vendere se stessi il proprio anche in qualche framework modo, il proprio engine o comunque cose che poi alla fine, insomma, c'è, cioè, un po' come come il discorso di Unreal Engine, cioè, sì, dire, nel senso, produci il gioco per che cosa? Perché comunque sia un enorme tech demo a favore di una della vendita, sì, del tuo prodotto, insomma. Vabbè, sentiamo allora Marpo, Giuseppe e Logan. Però scusa se ti interrompo, in questo caso di esclusiva temporale sì, però rompe il cazzo uguale. Guarda, sì, che sì, non ma rompe il cazzo uguale proprio per questo. Però è sempre comunque alla fine per avere qualche vendita in più adesso. Sì, nell'immediato, sì, sicuramente. Vabbè, ma il concetto stesso di esclusiva temporale è quello: il vendere subito, il vendere prima rispetto alla concorrenza. Più che altro. Che poi ecco, se una volta l'esclusiva serviva, no, l'esclusiva, allora se io faccio uscire il Super NES, faccio uscire il Super NES con 3 o 4 giochi correlati alla console al lancio, in modo che, e quello è un discorso. Le politiche di Microsoft sono politiche di Microsoft, cioè tipiche proprio di Microsoft, cioè nel senso Microsoft ha sempre avuto questo atteggiamento, quello che non riesco a raggiungere me lo accaparro, me lo compro o lo invado o lo distruggo. Sì, però secondo me è un ragionamento che potrebbe essere fatto appunto per quanto riguarda l'esclusiva temporale dal momento del lancio di una console, perché comunque tu le console le devi vendere e quindi uno quando va a scegliere si guarda il parco titoli e dice ah, qua c'è già questo, poi indipendentemente che il titolo arrivi prima o dopo anche dall'altra parte, intanto uno subito ce l'ha. Quello che però secondo è meno me è efficace di un'esclusiva esclusiva. Quello sicuramente, quello perché che secondo me non ha senso. Se sta uscendo, io aspetto 6 mesi, so che comunque Xboxari no, e PlayStation Sonari sono comunque. Tu ragioni secondo il tuo criterio, il videogiocatore scimmia. No, aspetta, quello che viene da scimmia. Sì, esatto. Prima del videogiocatore scimmia, c'è cioè sta pure quello che è comunque Sony a prescindere, Microsoft a prescindere, che va a vedere qual è la più cazzuta. Okay, no, certo. Vabbè, questo ok. Quello della cosa temporale, non gliene può fregare di meno. Aspetta, perché quello, sa che lo avrà meglio fan, sulla sua console, okay, capito? Però quello normale, cioè quello normale, quello che non ha questa preclusione, e gli esce Tomb Raider, cazzo, è uscito ieri, io lo voglio al day one. Però è solo per Xbox, lo so. Devo comprare pure l'Xbox. Sì, però questo, quello dove volevo arrivare io è che un ragionamento del genere lo puoi fare nel periodo di lancio di una console. Ma che senso ha fare un'esclusiva temporale dopo? Sì, dopo, ma veramente dopo. Ad esempio, quanto è durata l'ultima generazione di console? È durata 7 anni? Sì. Che senso ha al quinto anno farmi un'esclusiva temporale di un gioco AAA? Perché c'è ancora gente che compra console, soprattutto quelle Microsoft che si squagliano. Perché quindi ci sta sempre il giocatore che si scimmia davanti al fatto che lo vuole. Basta. Cioè, ma le esclusive temporali sono. Forse sono più adesso. Non mi vengono, magari le utilizzano più. Per quel. Ripeto, poi quelle temporali in effetti sono quasi illogiche. Sì. Però probabilmente sempre perché comunque alla fine molte console vengono vendute anche dopo, poi ci sono le versioni slim, ci sono le versioni con più hard disk, io non l'associo, cioè, però a sta cosa è comunque quella questione di vendita, per me è proprio per un percazzo. È vero che poi chi è che le fa le esclusive temporali? Le fa Microsoft comunque, o le fa pure Sony? Domanda, tutte, questa no, è una domanda tutte. temporali anche temporali Sony. A me sembra che Sony non so se le faccia, cioè voglio dire, non mi risulta o le fanno, cioè. O so no, qualche cosa c'è temporale, mo sbaglio. Ma io penso, aspetta, però ecco, forse anche questo. Allora, poi Giuseppe, perché sennò sì, in effetti stava a fare un po' macello. E il discorso è questo: è che una cosa è io sono lo sviluppatore e publisher X che ho sviluppato FIFA. Faccio un esempio, FIFA ovviamente è forse un esempio un po' eccessivo, l'ho comunque sviluppato per tutti, quindi io ho già messo nel mio business plan il costo di finanziamento di questo gioco. Poi arriva Microsoft 5 mesi prima che io faccio uscire il gioco e mi dice: guarda, io ti do 10 milioni di dollari se tu questo gioco me lo fai uscire. Ok, quindi per me è un più. Okay, o comunque ti rompe le scatole in altra maniera, perché nel caso che ti ricordi di FIFA c'è lo Ultimate Team, no? Esatto, che è una parte del gioco, che è un pezzetto di gioco che è solo esclusiva di una piattaforma. E questa è una politica che io continuerò a non comprendere, sì, assolutamente, perché è proprio tipica di Microsoft. Vabbè, in questo caso, però, diciamo, parte ci stanno quelli tipo David Cage che invece sono prodotti, sì, da Sony, perché, sì, David Cage senza i soldi di Sony non l'avrebbe mai fatto, sì, sì. Quantic Dream, sì, scusate, Quantic Dream che è la Soft Heavy House, Heavy Rain oppure Two Souls, no? Beyond, oh, non mi veniva, che cazzo, c'è un momento dell'lapsus, cioè, che è un'esclusiva del e quello lo posso comprendere, cioè, nel senso, comunque io ti do la mia garanzia che questo gioco è soltanto per te, perché i soldi me l'hai dati tu. Capisci? Quindi ecco perché io non riesco a comprendere proprio il discorso, cioè la domanda mi faccio, che poi in effetti viene incontro a quello che diceva Logan, mm-hmm, cioè nel senso lo posso capire al lancio, lo posso capire dopo, è soltanto un romper il cazzo al mercato. No, un romper il cavolo, comunque cercare di tirare più verso la propria piattaforma il maggior numero di titoli venduti per quei multipiattaforma che hanno, diciamo, dei contenuti cappati solo per una, per lo stesso discorso di quello per che gli giochi a Day One, esatto, no? Gli scimmiati, esatto, vabbè, sai che c'è, esce, so, passati 3 anni, esce Rise, The Second Rise of Tomb Raider, così, fra 3 anni, però c'è la prima, la Microsoft, e quindi ho scimmiato che ancora deve comprarsi la console e se va a prendere quella. Ecco, però mi ricollego a quello che ho detto prima, scusate un attimo. Nel caso di esclusive temporale a ciclo molto avanzato della console, come diceva Marco, si fa per vendere altre console, giusto? Sì, magari sì, versioni però... slim, eccetera, eccetera, giusto. Però conviene a Microsoft, Sony di per sé investire, perché comunque loro pagano per avere l'esclusiva temporale. Evidentemente nell'ammortamento, sì, probabilmente sì, sì, se no non lo farebbero, cioè sarebbe la follia, no? E avete anche ragione. No, no, ma in realtà non è, no, cioè, non è così sbagliato come discorso che quello, sì, che tu fai. Lo sai perché? Perché in realtà, allora, noi ci dobbiamo domandare, cioè, in questo mercato, quando stiamo parlando di grandi corporazioni, non è importante soltanto l'aspetto finanziario, cioè è anche importante l'aspetto del prestigio, del nome, del marchio. Quindi per investire anche perdendo, cioè, voi ricordatevi che PlayStation 3 è stato un prodotto in perdita quasi fino alla fine, sì, per Sony, e Sony ha continuato a investirci ugualmente, il che significa che non è soltanto un aspetto finanziario quello che conta, ma è anche l'aspetto del marchio, del fatto di far uscire prodotti che siano all'altezza di quella politica editoriale che loro hanno, e far vedere che loro sono quelli che fanno i giochi raffinati e con col ditino in su, piuttosto che i giochi da Mario di Microsoft o roba del genere. Cioè, è chiaro che c'è anche qualcos'altro oltre al fatto del, però se tu nella domanda, nell'insieme, mi viene da dire sì, certo che gli conviene, sennò sarebbero dei pazzi scriteriati, e considerando... non che non ce ne siano, no però considerando che sono giapponesi, vuol dire che metà della Sony si sarebbe dovuta suicidare buttandosi tutti di sotto, perché si sa, lì funziona così, no? Hai sbagliato dei... Sì, mi dirai, è come se adesso Microsoft avesse deciso di togliere il Kinect e non lo vendesse proprio, sì, più, ecco, quasi, tipo che a un certo punto, che poi vabbè, lì poi c'è un discorso, forse eravate voi che lo dicevate in uno dei vostri episodi, che non so chi è che lo diceva, forse Luigi Marrone, non so, però in realtà c'era questa questione qui, cioè nel senso, Microsoft è un'azienda all'americana dove la politica cambia a secondo del CEO che c'è, no? Mentre sì, che Sony è un'azienda alla giapponese dove la politica è insita nella mission della company, sì, quindi rimane sempre la stessa, invece più Microsoft o meno rimane sempre la stessa, sì, no? Più o meno, poi chiaramente, perché, insomma, poi sarebbe un suicidio se fosse un discorso assoluto, chiaramente. Peppe, scusa. No, no, io appoggio quello che avete detto finora, e che pure per me risultano comunque incomprensibili le esclusive a distanza di, magari ancora che siamo appena arrivati a 2 anni di a 1 anno di vita delle nuove console, PS4, Xbox One, 2 anni di Wii U, ancora ha senso continuare a far uscire titoli in esclusiva. Però effettivamente a metà del ciclo vita di una console in poi acquista sempre meno senso, se non appunto per rompere le scatole al rivale, no? Con sì, quelle infatti, temporali. È più guerriglia, secondo me, che o nel caso, diciamo, nella sottocasistica delle esclusive temporali, però di contenuti per giochi multipiatta, no? Quindi DLC in esclusiva temporale, non tutto il gioco, allora là è per vendere di più, diciamo, all'uscita, verso, per fare propendere il videogiocatore all'uscita verso una piattaforma piuttosto che un'altra, diciamo, una versione del gioco per un'altra, no? Sì, anche perché poi con le console sempre sul mercato la battaglia è fino alla fine. In realtà, no, non per fare sempre la parte del Nintendaro, ma quelli più carenti sono Nintendo, che hanno sempre fatto esclusive non temporali, no? Sì, tra l'altro mi sembrava strano parlare di esclusive nella puntata senza citare, esatto, Nintendo. Che è comunque Nintendo, seppur non diciamo facendo troppo mecenatismo per quanto riguarda quest'ultima generazione con Wii U, però comunque i soldi a qualcuno li ha sborsati a Platinum per fare in esclusiva sulla sua macchina Bayonetta 2, e anche prima Wonderful 101, li aveva teoricamente cercato di portarsi pure Ubisoft quando ci fu al lancio Zombie U, e poi doveva uscire pure, se vi ricordate, come esclusiva solo per Wii U Rayman Legends, che poi diventò a distanza di tempo multipiattaforma, con tanto di ritardo anche della versione per Wii U. Quindi comunque, e ovviamente poi Nintendo con tutti i suoi titoli che da quando esiste praticamente non ha mai licenziato per altre console all'infuori di quelle prodotte da lei stessa, no? Philips CDI. Sì, vabbè. Mamma mia, quei Zelda e quell'Hotel Mario non sono mai esistiti, secondo Nintendo. Purtroppo è questo che è quello che provo a dirmi io sul film di Star Trek di J.J. Abrams, ma purtroppo è esistito. È sullo speciale di Natale di Star Wars di George Lucas, che pure lui rinnega. Ah beh, ma lui dovrebbe rinnegare tante altre cose. Lui penso abbia rinnegato anche Star Wars. Sì, si è venduto, infatti, quindi figurati. Vabbè, detto questo, andiamo avanti e vediamo un attimo anche dal punto di vista delle software house, come abbiamo anche iniziato a provare a fare quando facevamo un po' l'esempio prima del fatto delle esclusive temporali. Quindi dalla software house che riceve magari un premio o un accordo commerciale per X tempo, inserendo magari X esclusiva all'interno del gioco, oppure invece tra quelli che in realtà ricevono proprio il denaro per fare ovviamente lo sviluppo del tipo di gioco per il tipo di console. Secondo me questo è un po' un discorso un po' particolare, chiaramente, a parte il discorso Naughty Dog, che è un discorso a parte, che forse una volta faremo proprio in un episodio. Normalmente, se comunque un produttore investe del denaro su un prodotto, lo fa per dei motivi specifici, che possono essere appunto come con Rise, per esempio, il far vedere magari determinati muscoli, determinati aspetti, determinate potenzialità della console. Ovviamente stiamo sempre parlando prevalentemente di console. E in quel caso ovviamente il produttore ingerisce anche, cioè nel senso influenza anche lo sviluppo, chiedendo magari che a discapito di questo problema, di questa questione, di questa features, ci sia comunque il fatto che si veda l'ombra ultra realistica, diciamo così. E questo può succedere magari anche nei giochi come i giochi di David Cage, per esempio, dove magari l'aspetto estetico magari doveva essere predominante rispetto a determinate cose, oppure come è successo per esempio agli sviluppatori di Heavenly Sword, che ovviamente è stato un gioco importante per la PlayStation 3, però era una tech demo fondamentalmente, tant'è che ovviamente l'aspetto tecnico e artistico, che è straordinario, ha completamente superato l'aspetto della profondità del gameplay, che praticamente era abbastanza miserrimo. Infatti il gioco non ha avuto successo, tant'è che poi dopo Evil's Horde Ninja Theory ha cominciato a rilasciare tutti gli altri titoli multipiattaforma, no? Esatto, però loro si sono posti proprio recentemente questa questione, no? Nel senso, sì, è vero, il gioco è stato prodotto da Mario, quindi da Sony in questo caso, ma se noi l'avessimo prodotto con le nostre risorse e poi il gioco non fosse stato in esclusiva per PlayStation, cosa sarebbe cambiato rispetto al fallimento commerciale del gioco, chiaramente? Ed è una domanda che in realtà ci poniamo un po' tutti, no? Nel se senso, avessero fatto un gioco uguale, probabilmente sarebbe andato male uguale. Secondo me avrebbe rimesso molto di più. Insomma. Esatto, secondo me, diciamo, è una riflessione interessante in generale. È meno interessante nello specifico perché comunque il gioco l'ha sviluppato te così, cioè nel senso non è che il gioco era fallimentare a prescindere, no? Quindi a meno che in quel caso la Sony non gli abbia detto guardate, a me mi interessa una cippa di come che ma sicuramente è così, però basta che mi fate vedere quanto cacchio è. Ok, però se il gioco comunque usciva così falliva sia che lo vendi per PlayStation che se lo vendi per tutti, cioè voglio dire, questo è un po' in questo caso gli ha fatto gioco il fatto che la maggior parte delle spese probabilmente ce l'ha messa. Esatto, quindi è un po' ingiusto come tipo di ragionamento nei confronti di Sony, però è giusto come ragionamento, cioè nel senso un produttore che magari produce un gioco esclusivamente per un tipo di console si riflette poi verso che ne so, un potenziale invece vendita generale su tutte quante le piattaforme, potrebbe guadagnare di più o insomma voglio dire a chi veramente conviene fare che questo nello specifico proprio il fatto poi di non aver fatto un gioco che ha sfondato poteva anche tradursi in un minori vendite sì, ma non, non ci concentriamo su loro, cioè no, su loro sono un esempio in generale, però se mettiamo che in Ninja Theory a parte se avessero perché fatto poi il gioco dopo non è che sia stato proprio meglio, però insomma, no. Tu immagini di diciamo che la pubblicità già non ottima con cui erano partiti, perché Evil's Horde non era tutta sta grande bellezza, e quindi già quello comunque parti comunque con un background negativo. Quindi pure quello partire, cioè dare tutte quelle che sono le proprie risorse a una società, a una software house che poi magari ti impone, quindi vabbè, ma sicuramente però ti fa fare un determinato prodotto che poi non è il massimo e poi dopo provare dopo a muoverti con le tue gambe è ancora più difficile, magari non economicamente ma come proprio sì, ma nomina. Infatti cioè questo ovviamente dipende come penso che voglia dire Marco, no, vuol dire tu, dalla capacità, no, da quanto è skillato, da quanto è scafato lo sviluppatore, no? Se comincia comunque, come nel caso di Ninja Theory, comunque a sfornarti titoli che, per quanto bellissimi dal punto di vista della direzione artistica, eccetera, poi alla fine. Insomma, non sono chissà quali chissà quale capolavoro effettivamente, no, tant'è che infatti per portarvi anche un altro esempio, From Software, se vi ricordate, ha cominciato con Demon's Souls, che se vi ricordate era esclusiva PlayStation, e poi dopo si è buttata nel multipiattaforma perché sapeva comunque di avere un prodotto realizzato bene, tant'è che infatti poi con Demon's Souls e Demon's Souls 2 ha fatto miliardi di ha venduto milioni di copie tra tutte le piattaforme, no? Beh, tornando un attimo a Nintendo, sì, lo stesso Bayonetta, esatto, 2 hanno dichiarato più e più volte che senza i soldi di Nintendo il gioco non si sarebbe potuto fare, però Platinum, il gioco l'ha fatto. Ti ricordo infatti che pure la stessa Microsoft ora ci ha fatto un pensierino, si è chiamata da parte Platinum e alle tre, l'ultimo E3 aveva presentato pure quell'altro titolo realizzato in esclusiva per Xbox One, cos'era? Sì. Che era Bayonetta, no, era Dragon Scale. Però posso dire che è un po' triste questa cosa, sì, perché cioè nel senso queste software house dimostrano di avere una grande capacità artistica e tecnica pure dal punto di vista della creazione e della profondità dei giochi, però evidentemente non creano giochi che sfondano il mercato e quindi hanno bisogno comunque di cioè praticamente non riescono a fare le prostitute, cioè, sì, non riescono a muoversi con le gambe, cioè vanno a fare le prostitute fondamentalmente, cioè nel senso mi dai una botta Microsoft, ti do sta botta, ah Nintendo che va, ecco, mi dai sta botta, ti era Scalebound, tanto per dovere di cronaca. Sì, vabbè, ma Platinum comunque questa cosa l'ha fatta solo con Bayonetta e appunto Scalebound, no, vabbè, poi tutto il resto però aspetta se mi dici che senza i soldi di Nintendo Bayonetta 2 non sarebbe mai esistito, significa che Bayonetta 1 non ti ha portato niente. Cioè, questo è il motivo per cui infatti loro dopo l'uscita del primo Bayonetta anche se in senso loro volevano continuare, non potevano perché non sapevano che non avrebbe venduto un cazzo. Con la differenza che Bayonetta, la serie Bayonetta, sono due bei giochi, invece Heavenly Sword infatti. No, non li associavo da quel punto di vista, cioè nel senso io parlo sempre di quello che poi è il riflesso e l'impatto che c'è sul mercato, no? Questo è un po'. Sì. Clippy. Sì. Ah, ma può essere di sì, eh. Secondo me non vanno sulla censura, vanno a dire guarda, però vanno a dire ragazzi, vedete quella piazza lì sotto al Colosseo, metteteci 300 ci devono essere 400.000 romani, esatto. Beh, posso di nuovo intervenire, posto zitto per un po', Nintendo magari potrebbe andare a dire guarda Bayonetta, magari fagli vedere meno il culo perché ci stanno i ragazzini, magari coprilo di più, perché potrebbe infatti Nintendo da quel punto di vista sicuramente sì, influisce molto perché è un po', insomma, diciamo così, ha una sua moralità un po' tutta particolare, però in generale penso che chi mette i soldi è per far vedere la ciccia, no? Dice no, io questo non riesco a farlo, io ti do i soldi, tu devi fare. Il problema fondamentale sono anche i tempi, poi, perché poi stai sotto il ricatto di io fra due mesi esco con la mia console. Ma che punto non stai? Questo non lo so. Perché vedi che David Cage ancora un mistero che va spiegato. A Sony a David Cage gliel'ha passate. Non solo di tempo, di soldi. Insomma, quindi c'è da essere, secondo me c'è una relazione amorosa tanto che non ci dicono comunque. Un altro degli ultimi giochi, di nuovo sempre per dire che Microsoft a un certo punto cerca di fare ritornare al suo vile i sviluppatori che invece lavoravano con stretto contatto con PlayStation, anche con la loro ultima esclusiva che sta, a quanto pare, sta comunque vendendo bene, con Sunset Overdrive. No, si sono presi Insomniac, quelli di Ratchet & Clank di Sony, se sono comunque chiamati, no? Per correre ai ripari. Comunque Logan voleva dire vai. Sì, no, che innanzitutto credo che riguardo Bayonetta non ci siano state censure da parte di Nintendo, perché in linea di massima lo vedo sulla stessa lunghezza d'onda del primo capitolo. Lo sto giocando ed è diciamo svestito uguale, se vogliamo dire così. Più che altro, come abbiamo visto appunto in Bayonetta, con l'inclusione dei vari costumi tratti dai personaggi di Nintendo, anche nel 2 comunque. Questa cosa, appunto, sì, nel 2 era, no? Quella dei costumi Nintendo, ovviamente era. Sì, dei costumi Nintendo, cioè sia nel. Cioè, sì, scusami, nell'edizione Wii U, quindi Nintendo. E colgo l'occasione di tornare indietro, di parlare di Metal Gear. Nella versione Twin Snakes per GameCube, fatta dai Silicon Knights, quindi comunque commissionata da Nintendo, c'erano riferimenti alla Nintendo in metà gioco. C'era un GameCube addirittura nella stanza del ninja, c'era Yoshi. Inserivano queste cose per far capire che loro ci avevano messo le palanche, in sostanza. Però a livello proprio di cambiamenti in maniera tecnici, proprio elegante anche, nel senso. Sì, abbastanza pretestuosa forse. No, quello che secondo me loro ci avevano bisogno è che comunque il gioco ci avesse quello che c'ha, ossia un comparto artistico e tecnico che era d'eccezione, perché comunque quando è uscito quel gioco, ragazzi, a vederlo era impressionante. Cioè, sì, ma era il Rise della PS3. Sì, esatto. No, ma io dico, secondo me queste esclusive sono tech e demo, poi che poi è tutto e ribadisco, The Order che sarà poi uguale. Poi Sony ci sta ricadendo sempre con Ninja Theory, perché vi ricordo che a questo alla Gamescom di quest'anno avevamo presentato sempre in esclusiva per PlayStation 4 Hellbound, sempre sempre di Ninja Theory, quindi, di cui ancora non abbiamo visto praticamente niente se non quattro immagini, però anche quello, diciamo, si sta ripetendo, no, corsi e ricorsi la storia tra, non, esatto, si imparerà mai. Facciamo l'ultima domanda e andiamo, sì, a dormire, dai dai, facciamo l'ultima domanda e andiamo a dormire perché si sta facendo una certa. Quindi secondo voi questa è la domanda di Cassandra, poi. Questa è poi Cassandra, sì sì, perché vedete, chi è Cassandra? Cassandra è quell'amica mia che è lì, che sta che fuori. Okay, okay. Si andrà verso in futuro uno scenario di esclusive temporali o comunque di esclusive, diciamo così, sì, oppure andranno a scemare e scomparire del tutto, si trasformeranno secondo voi? Parte, no, Giuseppe. Secondo me dipende da cosa, da produttore di hardware a produttore di hardware. Nintendo non abbandonerà mai le sue esclusive, non le cederà mai ad altre, a terze parti, quindi mai, no, dire mai. No, no, no, mai, io, mai. Lo ha già fatto una volta, no, potrebbe, no, farlo, no, perché, beh, è troppo redditizio per loro i loro brand. Magari mai dire mai. La storia mi darà ragione o torto, solo nei prossimi anni, non quando, esatto, quando torneremo a parlare in questo podcast tra 4 anni, quello che sarà. Speriamo, esatto. Voglio dire, sta qui fra 4 Microsoft anni. Sta qui. Microsoft e Sony, secondo me, si rimpalleranno sempre, soprattutto più Microsoft che continuerà a giocare, secondo me, con queste esclusive temporali, perché io pure ho comunque il sentore che anche, appunto, quest'ultimo, pure Sunset Overdrive, prima o poi se lo potrà giocare pure Marco su PC, mentre Sony secondo me rimarrà comunque 2-3 studi, tra cui gli stessi Naughty Dog o Quantic Dreams, se li terrà comunque sempre buoni, quindi credo che lo scenario difficilmente avrà cambi radicali, almeno per me, in questa generazione nuova. Logan? Secondo me si andrà sempre più avanti nel tempo, si andrà sempre più in situazioni come tipo quella successa con Bungie, che abbandona un titolo che rimane comunque in esclusiva di una casa produttrice, quindi Microsoft, però poi lei diventa libera di fare quello che vuole, come ha fatto con Destiny e roba del genere. Quindi magari in futuro potremo vedere Naughty Dog che lascia i suoi brand storici e va a lavorare per Microsoft, mentre su console Sony continueranno a uscire in esclusiva, quindi, a seguiti di Uncharted. Quindi diciamo che Logan, tu vedi in realtà, diciamo, i brand che restano sempre in mano ovviamente ai detentori, diciamo, dell'hardware, mentre si rimpalleranno gli sviluppatori. Sì, perché mi sembra di vedere anche una voglia, appunto, da parte degli sviluppatori di non focalizzarsi, sì, sempre sulla stessa cosa, ma di cercare di fare cose nuove, quindi la vedo così. Più esclusivo nel caso degli indie è più esclusiva temporale, però, se noti, perché solitamente molti titoli che sono indie, che sono usciti appunto su una console piuttosto che su un PC, che su PC poi comunque te li sei ritrovati a distanza di tempo sulle altre parti, magari con edizioni rimigliorate, esatto. Proseguiamo proceduralmente verso la fine. No, devi esprimere, no? Anche tu la tua considerazione. Io spero che al massimo le esclusive vere e proprie siano sempre di meno. Se proprio dovete rompere le palle con queste esclusive, fatele temporali, 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, quanto vi pare, cioè, fateci divertire. Ma io sai che invece mi domando che in un mercato che secondo me già nella prossima generazione sarà abbastanza diverso, dove il cloud in game comincerà. Ma lì anche le esclusive possono, perché mica ci sarà una sola società. Infatti non stavo dicendo quello, stavo dicendo che l'unici che rimarranno un po' che prima, cioè l'unici che per ora sono stati immutati come tipo, sì, di mercato, come tipo di politica, come tipo d'abitudine, che sono quelli del PC, prima o poi dovranno anche loro adeguarsi a un sistema che ovviamente non sarà più quello di adesso. Però ecco, la differenza ce l'avremo in chi darà il servizio di clouding della società A piuttosto alla società B, e anche lì ci saranno le battaglie, probabilmente saranno più fondamentali, perché lì si batterà tutto quanto, non solo sull'hardware, esatto, ma solo sul gioco. Però se, siccome che non c'è più l'hardware che tu, probabilmente prima o poi non ci sarà più l'hardware, esatto, che tu dovrai comprare, in realtà farti l'abbonamento a A o a B fondamentalmente ti cambia poco, nel senso potresti avere la possibilità di farlo sia A o che a B, esatto, ma se appunto, sono dico, più di una società, magari il fatto di avere quel gioco, quell'esclusiva, quella serie, magari lui c'è, ecco, quel mese lo faccio caso, a quella lì, no no, potrebbe proprio fare far cambiare proprio le muovere degli abbonamenti verso una società più da una più personale, no, certo, dovrebbe certo diventare più fondamentale. Ma l'esclusiva purtroppo è fondamentale, come così come non è nei canali televisivi, così come lo è in tantissimi altri tipi di cose. Anche noi, per esempio, nel nostro piccolo abbiamo un network di podcast, accaparlarsi l'esclusiva di un nuovo podcast è importante, capisci? Cioè, no, di là, no, io ho fatto uno scherzo, però chiaramente, cioè, il discorso è che questa è una logica di mercato che è sempre esistita. Il problema è che nei videogiochi spesso e volentieri non se ne vede nel tipo di politica che viene applicata, come appunto diceva Logan prima, sul fatto che per me non c'ha senso, cioè, no, può sembrare che non c'ha senso il fatto di avere una esclusiva temporale a 4 anni dall'uscita della console. Ecco, come diciamo, magari nel mercato del videogioco ancora ci sono delle logiche che a noi sono un po' ignote, insomma, diciamo, un po' che sicuramente ci avranno il loro senso. Però secondo me le esclusive non spariranno, ma è tutto quello che sta intorno che sparirà, cioè. Sì, secondo me diventeranno fondamentali nel futuro medio lungo, insomma. Poi saranno cambiati anche i videogiochi, esatto, per qualche anno. Proprio Logan, sì, vuoi fare un podcast con noi? Per sempre. Volevo togliermi le cuffie. No, non fa così, si spaventano, sono giovani questi, si spaventano. Giovani. Se fa presto di giovani, dici. Dice. Quando vabbè, raggiungi ragazzi la trentina. Vabbè, allora sei giovane, lascia stare. va bene, ragazzi. Non so se vogliamo fare l'ultimo giro per dire una cosa alla fine, proprio veloce. Allora vai con Logan. Ma se me lo dici così. No, ma dovevi specificare altro un ultimo giro su che cosa? Sì, appunto. Vabbè, allora lo dico io. Ma che cosa dobbiamo dire? Vabbè, dai, andiamo avanti. Vabbè, se vogliamo fare. Allora, chiudiamo questo osservatorio videoludico ringraziando tutti. In primis, ovviamente, ringraziamo Marpo, che purtroppo gli è arrivato l'attrezzatura IPN in extremis, quindi ancora deve un po' gli fa stai buono cavallo, la deve un po' addomesticare un pochetto, e quindi dalle prossime puntate sarà meraviglioso, quindi io è meraviglioso. Ce l'abbiamo da due puntate, ma gli vogliamo già un sacco bene. Come se fosse con noi da tre puntate. Da tre puntate. Proprio... come se l'avessi sentito su Retrocast qualche volta, di solito. E quindi grazie Marpo. Vabbè, ma non c'è bisogno che ci ringrazi tranquillamente. Ci fidiamo, dai, a posto. Grazie Marpo, grazie. Grazie. Ringraziamo ovviamente Logan di Cerebro. So che il fatto di Cerebro. Di Cerebro. No, so che chi ha sentito che c'era lui oggi in puntata si pensava che questo era un episodio che tanto stiamo pubblicizzando in giro. In realtà non è quell'episodio, quell'episodio ci sarà fra un po'. Ci sarà dopo gennaio, chiaramente, quindi passate ci sarà Natale, quando ci, no, ma non l'ho ancora anticipato. Ci sarà quando ci saremo tutti. Sì, sì, però noi già noi quando possiamo... uscirà questo episodio già avremo fatto uscire qualche immagine teaser in sì giro a destra e a manca, quindi insomma ci sarà comunque questo speciale episodio di Dietrologia Videoludica dove tornerà ovviamente Logan. E poi inventatevi voi il perché, insomma, quindi ringraziamolo. Se vuoi la musica natalizia, perché natalizia. Siamo andati, mancano pochissimi dobbiamo fare gli auguri comunque di chiusura, dobbiamo fare gli auguri, esatto, sì, vabbè, tanto Logan dice i suoi riferimenti e sì, innanzitutto grazie per l'invito alla puntata nello specifico e poi in generale all'entrata nella grande famiglia di IPN, ovviamente anche a nome per sempre. Ok, okay. IPN per sempre, anche a nome di Ivan e Enrico ovviamente, e poi niente, i miei contatti allora sono vi do, a me trovate su Twitter col mio nome, quindi Logan Singer, oppure il Twitter di Cerebro, quindi chiocciola lo stanzone rotondo, e mi leggete e ci sentite su Cerebro, in particolar modo a me potete leggere anche su PSM, PlayStation Magazine. Ah, pure te. Pure io, sì. Hai visto. Giuseppe, qua tutto magna, ma Giuseppe, no. Non diciamo dai, queste cose tutto magna. Con un ospite, che cazzo, cioè, veramente, guarda, sei una bestia. No, ma è vero, è magna. Ok, allora, vabbè, ok. È a buffa, anzi. Giuseppe? Beh, mi trovate sempre in tutti i vari podcast di IPN a tema videoludico e non, e tanto per fare sempre la marchetta la faccio nello specifico al mio podcast sui videogiochi di ruolo, che è L'Occhio del Beholder, che trovate appunto su iTunes cercandolo così, oppure su www.occhiodelbeholder.it. Wow, wow, io non ho dato l'indirizzo di Cerbo, comunque cerboroom.blogspot.it. Perfetto, ragazzi, scusate, sennò che ce l'hai a fare il cerebro, c'hai pure ragione, non lo uso spesso il cerebro. Va bene, allora i ragazzi vi fanno tanti auguri per buon Natale, perché io e Marco andiamo a concludere la puntata, per ragioni tecniche dobbiamo chiudere con loro il collegamento, quindi ragazzi grazie ancora. Fate, ciao, e soprattutto buon Natale. Buon Natale, auguri, buon Natale. Non mangiate troppo soprattutto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Amici del Proibito, un 50 sfumature particolare oggi, perché non parlerò direttamente di videogiochi, ma del fatto che non ho tempo per giocare ai videogiochi, o almeno ne ho pochissimo. Mi trovo nell'assurda situazione dove sto cercando di lavorare di meno, è una situazione diametralmente opposta rispetto a quella italiana praticamente, perché qui si tende a lavorare troppo o full time, anche facendo lavori stressanti, impegnativi o comunque fisicamente e psicologicamente logoranti, e invece in Italia uno cerca sempre il posto fisso, cerca sempre la possibilità di un lavoro a tempo pieno, anche perché si tende a non guadagnare mai abbastanza per sopravvivere. Qui, grazie a Dio, se uno si rivede italiano è esattamente l'opposto, quindi si guadagna anche più di quanto è necessario, si riesce a risparmiare e così via, a seconda ovviamente del lavoro che uno fa e per quante ore le fa. Fatto sta che in questo periodo davvero forse sono riuscito a giocare due volte all'espansione di Destiny e ho provato Injustice una volta. Dovrei anche riaccendere la PlayStation 4 che giace lì da un paio di settimane inattiva, qualcosina su PlayStation Vita ma poca roba. Quindi ricordatevi che il lavoro rende l'uomo pigro, e quindi aiutatemi, pregate per me nel mio sforzo per ricevere finalmente un contratto di tipo part time, in modo da poter lavorare e permettermi quindi comunque giochi, ma allo stesso tempo di avere il tempo per giocarci, se no è completamente inutile. Ciao e grazie. Allora Marco, andiamo a chiudere questa puntata che è ora, insomma, che siamo, sì, pure stanchi, siamo stanchi, è una puntata lunga, interessante. Prima, allora dico subito una cosa, così giusto per precisazione, lo faccio sempre, ogni tanto capita, perché lo sapete che ultimamente sono degli errori, ogni tanto capitano degli errori, facciamo degli errori, e questa volta anche se non è colpa nostra, avete sentito ogni tanto, avete avuto la sensazione che eravamo in tre, ma in realtà no, però dentro di voi c'era una vocina quantica che diceva secondo me erano in quattro, perché sentite ogni tanto citare un certo Marpo, ma così proprio in realtà voi Marpo non lo sentite, cioè non c'è, come proprio stato completamente eliminato dalla storia, e quindi è come se per la storia non fosse mai esistito. In realtà c'è stato un problema di registrazione, quindi abbiamo dovuto segare completamente la sua parte. Detto questo, peccato che dicevo le cose più interessanti, sì, di tutti, brevi ma concise, interessanti. Tra l'altro l'aveva fatto anche un primo, che è? Tranquillo, va tutto bene. Ho visto un flash strano. È un flash strano, tranquillo, devi fare. Aveva fatto anche un accesso anticipato che insomma lo rimanderemo alla prossima puntata. Detto questo, insomma, andiamo un attimo, lanciamo l'angolo giusto così, poi dopo. Vabbè, a questo punto c'è cara filosofia dietro ludica, no. Carissima videologia dietro ludica, no, non è così, no. Spettabile dietrologia videoludica. Vabbè, va, è uguale. Allora, partiamo direttamente da iTunes, perché anche se non è un commento strutturato, ci fa piacere che c'è sempre una micro recensione. Ultimamente insomma queste cose stanno aumentando, esatto, ci fa piacere. Cioè, allora questa qui dice brutti stronzi. Ah no, aspetta, no, quest'altro là sopra. c'è scritto Codolo, non lo sappiamo. Mitici come pochi. Però ci tiene a specificare, ripeto, mitici come pochi. Quindi non so cosa significa, magari siamo un po' esseri mitologici. Siamo mitici. Siamo mitologici, va bene, quindi ci fa piacere, caro Codolo. Lo ringraziamo, Lo ringraziamo ovviamente, certo. Ci ha anche messo 5 stelle così sulla fiducia, quindi ci lo ringraziamo due volte. Beh, sulla fiducia, se è a mitici come pochi, vuol dire che lui oramai ci ascolta da un po' di tempo. Tra l'altro, le 5 stelle, insomma, che non è un partito non politico. È partito. Le 5 stelle, infatti, questa cosa mi un po' mi infastidisce. Ma c'è sempre un perché, ricordati. E insomma, continuano ad aumentare insomma gli utenti che ci mettono 5 stelle, quindi ci fa piacere, continuate così, fate comunque le vostre recensioni su iTunes, perché soprattutto aumenta anche il nostro ranking, che è molto, esatto, importante. Quando arriviamo a un certo punto ci si sbloccano anche i nuovi achievements che, esatto, ci permetteranno di fare altre cose, esatto. Tra l'altro oggi ho comprato un GTA 5. Ma davvero? Sì, mica lo sa, però lo sa. Ecco perché te parla. Ci ho mandato Matteo. Ancora peggio. Hai fatto, vai tu. Tieni il resto, vai tu. No, non abbiamo pagato. Abbiamo portato una secchia così di giochi. Vabbè, allora. Più c'erano 10 euro nella carta tramite la carta sconti, perché era quella là della PlayStation che ci avevano accumulato 10 euro, quindi non l'abbiamo pagato. Quasi non avete pagato. No, non abbiamo pagato. Non avete pagato prima. Vabbè, non abbiamo pagato, cioè virtualmente oggi. Matteo è andato lì e non l'ha pagato. Vabbè. Quindi ne parleremo poi. E poi c'è il sito. Sul sito c'è www.dietrologiavideoludica.it, ma quello lo diciamo alla fine. No, it, non è com. Orge. No, è com. It. Perché cazzo mi fai sbagliare? It. Ecco, ok. Tra l'altro lo diciamo comunque alla fine. Non è quelli. Diciamo che stanno continuando a uscire gli articoli come ultimamente... Insomma, non ce lo spiego neanche perché, però escono. Cioè, esatto, e ci sono anche il Passioni Sound Design, che è la rubrica che ovviamente Carlo Burigana fa all'interno della nostra trasmissione, che noi li facciamo uscire anche a parte, quindi insomma trovate perché per magliere non si butta via nulla, esatto, quindi noi... No, vabbè, perché comunque sono belli, lui ci tiene, lo mette sul suo SoundCloud. No, detto questo, ci sono molti articoli nuovi sul sito, tutti commentati, quindi sai, mi piace, ci sono discussioni, soprattutto primo avvio di Dragon Age che è già uscito, nonostante che lo dovete sentire, cioè, ne abbiamo parlato in questa puntata, però insomma molto prima abbiamo già fatto uscire l'articolo, quindi sapete già più o meno Peppe che cosa ha detto e che cosa ne ha pensato se avete letto l'articolo. Ma sulla puntata scorsa, che ricordiamo è la puntata fuori dal tunnel, esatto, che invece con Alex Racuglia, Alex Rack, ciao Alex Rack, detto anche Raccu. Exit Planet Dust, che ormai è diventato uno dei nostri più cari commentatori, ci dice: grazie per questo graditissimo regalo natalizio e buone feste a tutti voi. Grazie anche a te, buone feste anche a te. Poi vabbè, ci rifacciamo soprattutto dopo. non era quello un regalo natalizio, perché cosa? No, nel senso che non era l'ultima puntata prima di Natale, questa è la puntata, perché ricordiamo che Dietrologia Videoludica è diventata bisettimanale. Bisestile, esatto. Cesare Giraldi ringrazia, fa bene. Poi vabbè, il limite fa una domanda sempre specifico, sempre tanto a lui, lo metta solo lui, ormai va e hacka il nostro sito e lo cracca e ci mette sempre i suoi commenti. I limiti strutturali di cui parla Marco in merito a Fallout, da quanto ho capito, si riferisce ad essere finali non coerenti con il tutto coerenti rispetto alla performance del giocatore, li attribuisce ai titoli storici, alle moderne incarnazioni o ad entrambi? Io non ho capito. Neanche io, però, no, perché tu devi, quando ci fai le domande, devi pensare che dall'altra parte c'hai dei bambini di 6 anni. Esatto, tu ci fai periodi brevi. Brevi. Tipo, non metterli uno dentro l'altro perché sennò svalvoliamo. Esatto, e poi fai delle digressioni all'interno della domanda, è finita, non c'è più speranza. Io potrei dire sì, certo, anche. Ma cosa? Lui l'ha capito. Ok, sì, allora. Anche, sì. Anche, soprattutto. Sì, anche. Va bene. E invece dalla pagina Facebook, che invece è rimasta un po' sguarnita sto periodo, perché noi andiamo a fase alterne, sono periodo in cui si accalcano, c'è soltanto Luca Nerozio che dice: ah, questa è la settimana dei grandi ritorni. Allora giustamente io ho detto, perché ovviamente faceva riferimento al fatto che c'è stato ospite Alex Raccuglia all'interno della puntata, quindi era contento Luca Neronzio, e abbiamo chiesto ingenuamente perché chi altro è ritornato, e ci ha giustamente ricordato cose che avremmo dovuto sapere noi, ossia Andrea Milana nel... è tornato, sì, cioè, in archeologia videoludica abbiamo messo il remix, quindi... no, ma forse lui diceva, cioè noi non capivamo perché noi pensavamo soltanto in dietrologia, noi sì, esatto, noi ci fossilizzavamo, in realtà lui ragiona ad ampio spettro IPN così come dovrebbe essere, giustamente. Va bene, questa appunto è la puntata che esce il 22 dicembre, c'è adesso, quindi tra... è già uscita, esatto, quindi inutile che lo ripeti. No, che... quello che oggi non è il 22, allora, è la puntata che è uscita il 22 dicembre, quindi noi come dietrologia videoludica, con tutti i compagni che sono stati presenti con noi all'interno di questa puntata e tutto il team di dietrologia videoludica, che ricordiamo è diventato un team immenso, potremmo veramente fare un giornale, che il PN soprattutto dietrologia videoludica è l'unica trasmissione, esatto, by podcast che ha più collaboratori e ascoltatori. Quindi, se vuoi diventare anche tu un collaboratore di Italia, se sei un ascoltatore puoi diventare anche un collaboratore. I requisiti sono ascoltare almeno 5 mesi, esatto, quindi diverse puntate, dipende quante puntate, devi sapere, 5 puntate, mesi, devi saperle, sì. Lasciare 5 stelle sul sito, esatto, dire siete fantastici, fatti codolo lì adesso poi. L'abbiamo già contattato, già contattato per entrare, e poi dopo, cioè, si avvia tutta quanta una pratica che va avanti con esorcismi, sacrifici umani e cose del genere. Comunque dicevo che a nome di tutti quanti vi faccio gli auguri di buon Natale e soprattutto di buon anno, ma vi rimando all'episodio che dovrebbe uscire il giorno dopo rispetto all'episodio che siamo di questo episodio qui, che è l'episodio speciale natalizio di archeologia videoludica, che ha fatto già lo speciale su Ralph Baer, Ralph Baer, anzi Baer, scusate, io mi impiccio sempre, Ralph Baer, comunque l'ha chiamato birra, orso, birra, orso, stiamo chiamando in tutte le maniere, e poi farà uno speciale natalizio che racchiude tutti quanti i podcast di IPN, che insomma è un modo allegro e simpatico per stare tutti quanti insieme e farvi gli auguri soprattutto di buon anno, ma soprattutto di buon anno nuovo, perché speriamo che il prossimo anno sia un anno migliore. Marco saluta, vi saluto tanto, diamo il riferimento, tu dove sei su Facebook? Io sono su Faccia Libro con Chaindog Roma, ma poi ci prega di dove lo dice, nel senso noi siamo mica ospiti che ogni volta lo dobbiamo dire, insomma lo diciamo, quando uno si presenta dice a me io sto pure, se ne volete cercate su Facebook, ci stiamo, Gioconno anche su anche Twitter, su Twitter, esatto, insomma ci sta pure, sta per arrivare Gioconno, attenzione, sì, sì, io c'ho grosso timore di questa cosa, devo ancora pensare come si deve materializzare. Guarda che non è facile materializzare, soprattutto materializzare. E comunque www.dietrologiavideoludica.it, dietrologia videoludica lo trovate su Facebook e Google Plus, chiaramente come pagine, fate mi piace, datevi, cerchiate, fate quello che dovete fare, contano come achievement per essere ripresi come collaboratori, esatto, questo soprattutto, e fate anche abbonatevi su iTunes al nostro podcast audio, che è questo, altrimenti insomma sarebbe difficile poterlo sentire, anche se lo potete sentire con qualsiasi altro podcatcher, pod addicted o pod qualsiasi cosa, anche su Android, su Windows, su tutti i sistemi che volete, mettete 5 stelle anche lì, fate la recensione, così vi aumenta vi aumentano gli achievement per poter entrare nel nostro team, e niente, basta, non so se ci sono altri, dietrologia vide su Twitter per twittare con noi, ma tanto perché esatto. Tanti auguri, ciao, ciao. Flawless victory. Ciao, amici. Welcome to Geronto Gamer. Ma che palle, pure il nuovo Mario Kart sarà esclusiva da Sony. A me ste politiche vanno proprio rotto. E calmo Simone, ma perché volevi giocarci? Ma che sei scemo? A me Mario mi sta sul cazzo. È che è proprio sta cosa delle esclusive che mi fa proprio rode. Non la sopporto. Ma questo è il futuro, eh. Accaparrarsi i software per vendere hardware e servizi. Ma non lo so, mi dà fastidio, mi sento infastidito. Ma tanto, eh.